presentazioni, dopo rispondo al messaggio. La usa WhatsApp web? No, è Sì, Instagram. anche. Usa Instagram web? No, Instagram web non si può vedere. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va Un bene. messaggio, grazie. Potremmo fare la diretta Grazie. Instagram, apriamo il canale Instagram. Allora, Cioè, tu dici che non no. riesci a leggere i messaggi su Instagram web? Non su Instagram, né web, né contro web, ma bentornati, benvenuti alla Maledizione di Katta, episodio 45. Noi siamo Tycoons and Dragons, Dominante. ci A vedete sempre in diretta, dovreste riuscire a livello vederci sui nostri canali social, Tycoons and Dragons, RIPGDR, anche il podcast di RIPGDR. Yes. Che figata, 45, 45. Vedete purtroppo anche Arci, quello fa parte 45. del pacchetto. E oggi, come dicevo, giocheremo alla Dai, si vede Maledizione di bene. Katta, episodio 45. Solito Dungeons and Dragons versione Detta 5.0. versione Dungeon Master. Esatto, Dungeon Master Madonna, attenzione. malvagio, come sapete benissimo, il maledetto Enrico Cattabriga. Insieme a lui Ecco il e a me, Andrea palpatine. Giacomo Vecchi, abbiamo Francesco Arcidiacono, Giulio Bosi, Edoardo Saladini, Stefano Gamberoni e anche Marco Bosi. Con la partecipazione. No, basta. E dopo una serie di insulti che mi sono beccato per frustrazione e qualcuno direbbe pietà mentale già dei Avrei detto frame rate, però va bene. comprati forse dovresti comprarti la NASA è l'unica soluzione sì. Ma a parte questo, direi a questo punto, visto che siamo in diretta, credo, Noi giusto? sì, tu sei un po' scarso, sei un po' sfasato. Io sono sfasato? Non mi sentite bene? Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Vabbè, allora se è un problema di Arci, vaffanculo Arci. E tanto di lui vediamo soltanto i Non precipiti, vedete ma è che parlo e poi normale. fa le smorfie? Ma Vabbè, sì, c'è senti. un problema nel video di Vez, ma chi se ne frega? Quello dicevi. Vabbè, basta. Boh, vabbè, è un problema vostro in realtà, però. Comunque va bene, e non ha importanza, tanto non mi avete mai ascoltato, quindi non vedo cosa cambi. No, ti sentiamo E benissimo. appunto. E Il allora, problema è proprio che effetti sentiamo voi. bene, quello che. Va bene, chi va con il riassunto? La sigla. Aspetta, Sì, ma la sigla non è che fa il riassunto. la sigla, dov'è? Perfetto. La sigla non fa il riassunto da sola, di solito. Sceo. Scusa. Ah, lo devo fare io quindi. Perché lo? Perché nessuno si Ah no, ricorda. se vuoi lo faccio io. Vabbè, in Vai, pratica sceo. metà della sessione è stato un litigio di Vez contro il resto del gruppo, È vero. capitanato da Giulio, il Però resto alla del fine ho avuto gruppo. ragione io. Eh sì. Sì, vedremo. Vediamo se ci Dobbiamo vedere che fine hanno riuscirà. fatto. No, nel senso che ho avuto Vabbè. ragione di voi. Ah sì, perché a noi Sì. sostanzialmente ce ne fregava il cazzo, nel senso. Esatto. Non Ah, sembrava in realtà. vabbè, posso fare un riassunto molto veloce. Dai. Dalla sessione precedente avevamo la situazione in cui c'era questo orfanotrofio con i bambini ormai abbandonati a se stessi che nutrivano una progenie. Abbiamo organizzata così, abbiamo fatto portare nascosti con un carretto i bambini alla locanda Sicuro che e siano tutti abbiamo morti quei aspettato. bambini adesso. Probabile, e abbiamo aspettato facendo un Catta, agguato ti la prego. progenie all'interno dell'orfanotrofio e l'abbiamo sconfitta. In realtà questo è molto molto semplice, stringato, ma è quanto è successo. Qualcuno vuole aggiungere dettagli più succulenti Tipo chi era la progenie, cose così. Padre La Lucian. progenie era il Ah, sì, scusami, prete hai ragione. La progenie abbiamo scoperto essere padre Lucian. Credo fosse Non ho avuto Vezio, ho neanche un litigato con lui e inspiration. l'ho ucciso, poi. Esatto. E quindi probabilmente, cioè probabilmente padre Lucian è stato trasformato in una Da progenie e cosa lo continuava a deduci? nutrirsi di più. No, sì, non probabilmente è così. È digievoluto da solo. È Esatto. divenuto da solo. E niente, adesso ci rimane da scoprire se i bambini stanno bene, che è fondamentale, e capire cosa è successo anche a padre Lucian, perché in teoria noi l'avevamo lasciato che era al sicuro in questa chiesa, quindi magari cercare di capire cosa è successo potrebbe essere. Morto. È morto, beh, chissà com'è morto. l'avete ucciso. Già. Questo dipende da come la vuoi vedere. Qualcuno vuole aggiungere altro? È vero, tecnicamente era morto prima. Dopo che vi ho salutato io, come avete concluso? Cioè, avete concluso la campagna? Ah, niente, siamo saliti al decimo livello, abbiamo ucciso Strad e niente. Siamo stati uccisi da Strad e quindi siamo saliti al decimo livello. E poi siamo saliti. No, siamo stati uccisi da Strad e quindi siamo saliti al decimo. Il finale alternativo segreto. Sì, prima di morire ha detto non agisco col favore delle tenebre, ci ha tenuto a dire questo. Anche se è arrivato di notte. Poi dopo ha visto la luce e ha cambiato idea. Esattamente. Va bene, detto questo... Avete, quindi ci siamo interrotti appena alla fine dello scontro. Esatto. Con padre Lucian che è stato massacrato. Il brucerello orfanotrofio. Come dici, Giulio? Il brucerello orfanotrofio ormai per sicurezza. No, io no, prima perché darebbe i bambini dentro, scusa. Prima rimettiamo, no, ma io non sono uno spietato massacratore. Ah no? Ma perché dovremmo bruciare l'orfanotrofio? Si dicono bugie. Giusto. Così, cioè fai un raggirare. Spietato omicida sarebbe meglio. Esatto. No, io non lo brucerei, diciamo, per non dare troppo occhio, ovviamente. Anche io sono un omicida sanguinario. Folle. Oh. Quello è la batta. No, è vero, Dani, dobbiamo riconquistare Kresk. Ah, tra l'altro abbiamo scoperto che padre Lucian è fratello di Vaktar. Vero. Di Lady Vaktar. Almeno. Sembra di Vaktar. O è lui o boh, cioè, no, è lei che è sua sorella. Ah, hai ragione anche tu. Sì, no, che lei gli ha dedicato una cosa che ho scritto fratello, ma non so, può anche essere una cosa di fratellanza. Sì, sotto anche Yak chiama bro Fede, però. Sì, ho capito, cioè nel senso Yak non è rappresentativo come fratello? No? No, ma della popolazione di Barovia, spero. Oddio. No, però è tipo la nostra fanbase, quindi io non chi è? Ma non è un insulto. Chi è che ha offeso? Non è un insulto. Chi è che ha offeso? Io ho detto che Yak non è rappresentativo della popolazione di Barovia. Yak, come è arrivato qui? Vabbè, sempre con noi. Se non sei sul pezzo. Scusate, un uomo sulla Trentina che cammina, vestito di Armani. Sì, ecco, non sarò rappresentativo, però vado veloce, quindi fottete. Va bene. Vabbè, andiamo alla... torniamo alla locanda. Okay. Cosa ne facciamo di Lucian, però? Io gli avevo tagliato la testa e era diventato cenere, mi sa. Penso che l'abbiamo... È diventato cenere quando l'avete ucciso. Sì, però io avevo fatto una preghiera, era stato interrotto, ma avevo fatto una preghiera per padre Lucio. Sì, sì, tu avevi fatto la tua preghiera e nel frattempo comunque stavo tagliando la testa. Abbiamo quelli che sono i resti, la polvere, l'ho diciamo sparsa nel campo santo della chiesa. Ok. Con una preghiera. Da lì nasceranno mille progeni. Mille milioni di progeni. Quindi è notte fonda e voi siete fuori dalla chiesa. Andiamo nelle tenebre. Agite col favore delle tenebre. Direi che andiamo. No, nel senso, aspetta, non ci sono fiaccole e lanterne. Fuori. Sì, bambini. Yeah! Fuori non le vedete, ci sono le luci all'interno di alcune case. Quindi noi siamo nel buio. Voi siete nel buio. Col favore delle tenebre, a meno che qualcuno visto che la maggior parte di noi non vede nel buio. Aspetta, io ho ancora luce sulla spada, su una delle spade, la luce che era stata castata. Qualcuno ha fatto luce sulle strade spada, della città, ogni tanto qualche, cioè non sarà buio pesto, giusto? Vengono illuminati dalla luce che viene dalle delle case. Non è che ci sono i lampioni. Secondo me è parecchio buio. No, però... in Bologna senza tutti i lampioni. È buia. Vabbè, insomma, andiamo verso la locanda. Insomma, qualcuno ci guiderà. Anche perché di notte la gente va a dormire. Non è come adesso che tiene accesa le luci. Okay, no, una volta al tramonto del sole più o meno se andava, esatto. E non c'è la luna. Che magari c'è... giusto dalla locanda. Questa volta non c'era la luna. Che strada prendete? Beh, direi. Ma io prenderei la statale 5. Direi l'unica. Quella parla principale o sì, girare sì. In camuffa tra le case? No, facciamo. Sì, facciamo la principale, non abbiamo nulla da nascondere. È vero. Ok. C'è un posto di blocco. Ma scusa un attimo, tu Giulio hai la testa di Lucian o sei incenerita anche quella? È incenerita. Ok. Sì, ho anche provato a lottarlo, ma cazzo mi ha detto non puoi lottare la polvere. Cioè, ho provato a prendere la polvere e metterci dell'acqua e fare una palla, però non è venuta bene. Ok. Bene, vi incamminate lungo la strada facendovi luce, quella che vi serve, con quello che avete, facendovi luce. E, arrivate a metà strada e nella direzione opposta alla vostra vedete quattro figure, di cui due portano una torcia e stanno camminando nella vostra direzione. Ok. Intravediamo cosa sono. Cioè che se sono vistani dovremmo rendercene l'altezza, no? Perché hanno un'altezza diversa. Sono più piccoli i vistani, no? No, hanno semplicemente una carnagione un po' più scura. Era che razzista. Beh, dei zingari, Porca troia. Io non ho capito che fossero più piccoli. No, poi, sono come Brad Pitt in The Snatch. Dai. Bello. Posso fare un perception per vedere... Prego. Intravedo meglio cosa metri, sono. 22. Vedo qualcosa? Con svantaggio, è buio. Ma io ho scuro visione. Vuol dire che ti permette solo di vedere le forme. Vabbè, ma c'è la luce della spada di Giulio. No, scuro visione 18 metri, vedi quella della di questi tipi. Hanno le facce illuminate dalle fiaccole. No, sono incappucciati. Però una prova la puoi fare comunque. Merda, li scappuccio a forza di lupi, vedrai che... Quindi con svantaggio per forza. Sì, perché non è una buona visibilità. Aspetta, sfortuna spara palla di fuoco così. Esatto. Dopo c'è un po' di luce. Hai una buona visibilità. 12. Ok. Allora, noti che hanno... sono armati... le armi sono hanno delle spade che sono ancora inguainate e le parti che si vedono sono quelle del loro abbigliamento, degli stivali e dei pantaloni, e sono degli uomini e sono, tu diresti, vestiti come si vestirebbero delle guardie, insomma, vestiti pesanti che offrono protezione. Ma ok, ma in generale questo corpo di guardie non aveva dei simboli in questa città? No, i vistani non avevano simboli. Certo. No. E gli altri due? Cioè solo due, hai detto, sono così. Sono in quattro, di cui due portano le torce. Hanno visto, Giulio? Me le sono perse. Non l'ha visto. Guarda bene Giulio. Padre McGee, grande, mitico. Ecco, non fare quello che farebbe lui, grazie. Un giorno tornerà padre McGee, se no veramente ci facciamo Lucian. Alcolismo, persuasione, combattimento da strada. Vabbè, alla fine ci ha messo 20 minuti, ma ho tirato anch'io, lo scarico con svantaggio. Okay. Quante volte hai tirato? Passa una mano. Tienilo lì, Arci, che può servire. L'argilla adesso se ne è messa. No, vabbè. Penso comunque che non abbiamo niente da nascondere, quindi proseguire. Va bene, vi avvicinate finché le vostre strade non si... Hai ancora una mappa, Kappa? Non so se questo è voluto. Sì, è per farvi vedere dove siete. Però Vallati, se preferite vedere la mia faccia. Non ho corretto l'immagine originale, mi dispiace. E quando arrivate a, insomma, distanza di potervi vedere chiaramente, vi fanno cenno, uno alza una mano e vi fa cenno di avvicinarsi. Ok. Mi avvicino. Salute a voi. Dall'accento capite che sono dei vistani. Ah, l'accento sì, ma l'altezza no. L'altezza no. Sono alti normalmente, uno di loro è un po' più alto, uno di loro è un po' più basso. Siamo lì. Quindi quello più basso è un vistano. Anche quello più alto è un vistano. Cioè, un vistano grosso e un vistano piccolo. E vi dicono: buonasera a voi, per ordine della Borgomastra c'è il coprifuoco a quest'ora. Cioè, sono io il razzista, insomma. Sì. Okay. Allora, posto era giusto per essere allora la prossima, cioè, arriva uno di colore, fa io bro Kata sta interpretando, sta dando carattere alla scena. Bravo Kata, tu sì. Grazie. Che sei uno posto. Papamosh e chiede: per favore, favorite vostre generalità. In generale sto così e così. Ce l'ho. Questi non sono i droidi che state cercando. Per quel che so, noi siamo al servizio della Borgomastra, quindi... Ah, è vero che abbiamo il diplomatico qua. Vermilingue. Quindi... Voi favorite le vostre generalità. Marco. Sta ribaltando la situazione. Non c'è nessun problema qui. Siamo dei semplici avventori. Stiamo arrivati per riposare la notte dalla locanda. Marco stai morendo. Beh, questo super cazzo che hai detto. Siamo è molto dei... semplice in realtà. Giulio, stai perdendo un fratello in diretta, te lo dico. Vabbè, ma tanto so che vabbè. Abbiate pazienza, siamo molto stanchi per il lungo viaggio, gradiremmo riposare se non è un problema per voi. Posso tirare un persuasion? Ma sì, loro comunque dicono non c'è problema, ma avremo solo bisogno dei vostri nomi. Certo. Il mio nome è Narst. Come? Lord Vartistrand ha cambiato nome? E io sono... Adesso il contrappa. Lui è Cap. Io sono Ktap. Ktap, era ovvio. Vabbè, anche io l'ho fatto più o meno così. No, vabbè, un po' diverso. Sono Ktap, amico di Narst. No, figlio di Khmer. Suona meglio Ktap. Aieie, io mi chiamo Aieie. Ah sì, ho un cugino che si chiama così. Aspetti, forse lo conosco, come fa di cognome? Mi faccio indovinare. Iniziava per Bib. Brazorf. Brazorf, eccolo. Va bene, gli date, immagino, anche le vostre generalità false. Sono Darst. Darst. Amico di Narst. No, amico di Strad. Ma che si chiamava la tizia? Quello. Lady Bakhtar. Sì, sì. Irina. Mi chiamo Irina, non so. Ratkav. Vabbè, tanto che sarà intelligenza 6. Sono una donna. Vediamo un nome che potrebbe dare. Sono un vampiro. Ah, no. Darst, l'hai detto a caso o ti ricordi? O mi ricordo cosa? È strada al contrario. È strada al contrario. Ah no, con la A, non con la U. Pensavo scritto con la U. È no, scrivere un po' fare, tanto non devi scriverlo. No, perché tu i Durst erano la famiglia che aveva la casa Di Strud? No. La prima in cui siete entrati. Elvio. No, comunque. Sì, bravo! Caspita! Sì, secondo te Sara si ricorda il nome. Sì, infatti mi ero stupito. Anche perché wow. Non c'era, tra l'altro. Questa è la grande mossa del maschio, non si ricorda. No, ma ha riguardato la puntata e esatto. Ha voluto fare una citazione. Bravo. Inspiration farei il gatto Inspiration. Io dico Elvir. Estevir. Elvir. Elvir. Sì, non è tipo il figlio farlo. Morto di... Non è il figlio morto. No, è il figlio morto di coso, dei Corvo Mannaro, quello che abbiamo trovato col tentacolo. Sì. E Atanas non è una grande inventiva, cioè un nome che gli viene in mente, uno di il nome di un morto. Cioè. Ah, direi che nessuno ha avuto una grande inventiva, se posso. Vabbè, lasciamo... non è che... bene. Tanto questo non è che... Quindi andrete ad alloggiare nella locanda. Molto bene. Vi chiedo di farvi... Ce ne può indicare una... Ah, anche tu hai dato generalità false, ora parli bene. Vi dice, certo, seguiteci. Ma lor signori, come mai queste... Mi sembrano sinceri. Tutte queste domande stanno facendo il loro lavoro. Vabbè, c'è coprifuoco. La metto in un altro modo. Posso tirare un insight? Comunque, io non ho capito perché abbiamo dato i nomi falsi. Tu puoi benissimo fare quello che vuoi. Io non ho capito perché noi li abbiamo uccisi. Bravo, Marco. Bravo. Vi scorteremo alla locanda e chiederemo di attendere mentre. Chiameremo l'ufficiale per parlare con voi. Beh, cattati un attimo. Apertura di cazzi. Non potevamo dire i nostri nomi, dire noi conosciamo Lady Vartar. E grazie a noi. Che... L'ufficiale, ma per quale motivo mi perdoni? E noi conosciamo anche il capo dei Vistani. Cioè, noi siamo super immanicati e ci abbiamo dato dei nomi falsi del cazzo. Sono gli ordini. Dobbiamo controllare gli accessi. Ma è solo una formalità. È una semplice. Beh, Atta. Ci porti allora da questo ufficiale, così facciamo prima, come ho detto siamo... di intuizione. Siamo molto e che cosa cerchi di intuire? Se sono seri, se sono sinceri o se hanno da rompere il cazzo. Stanno semplicemente facendo il loro lavoro. Esatto, quello, posto. Io gli chiedo... Non è neanche rotto che ho una spada sguainata che è brilluccia. Io gli chiedo, ma beh, a questo punto, se è proprio necessario, portateci direttamente da lui. Come volete, era per farvi alloggiare. Ma noi, come ho detto, vorremmo riposare, quindi se proprio è necessaria un controllo di questo tipo, almeno facciamolo il più veloce possibile, insomma, se proprio fosse così necessario, non capisco bene il motivo. Ma le porte sono aperte, non abbiamo visto cosa? Ah, non avete visto perché noi stiamo cioè adesso Vez sta facendo che siamo appena arrivati e vogliamo riposare, ma sì. Se le porte sono chiuse nel senso... è un po' sospetta la cosa, potrebbe essere sì, lui diceva per voi perché così potevate appoggiare le vostre cose. Ma qualcuno non può sciarmarli o super raggirare? Sì, ma Ok, vado lì, dico. No, io Marco, mi sono presentato. Non ti sentire in dovere di fare il bardo, Marco. Tranquillo. E inizio a fare la mia canzoncina. Salve, piacere. Questi non sono gli avventurieri che state cercando. Che canzoncina fa? Ah, ok. Adesso ci fa arrestare. Non so già. Sì, probabilmente se l'avessi tirato una manganellata in fronte con lo strumento, otteneva lo stesso risultato. Forse meglio. E mentre canticchio voglio fare uno slip di terzo livello. Ok. Robin Hood e Little John, la forza. Dopo dobbiamo ammazzarli, cioè ormai abbiamo già dato anche i nomi falsi. Ma infatti voi avete dato i nomi falsi. In realtà va bene, così quando si sveglieranno cercheranno. Sì, dovevamo dire nessuno. Sì, ma... Noi abbiamo dato i nomi falsi. Marco il nome falso l'ha dato anche a noi, quindi che cambia. Sì, esatto. Non è che abbiamo parlato da 20 metri nell'oscurità, cioè ci hanno visto. No, 20 metri sono pochissimi, bastava anche 500 metri. Abbiamo visto molto prima quando abbiamo salutati a 30 km. Ma siamo partiti da Kretsk praticamente. Sì, esatto. Marco, vabbè, intanto vado in bagno. Ok, quindi devono fare un tiro salvezza sulla volontà, credo. Non hai fatto slip? Sì. Slip, tiri i dadi. Ok, ho tirato 35. 35. Ok. Che componenti ha slip? Vediamo. Verbale e somatica. Vabbè, quindi non ci rendiamo conto che stai castando qualcosa. Allora, lui, vabbè, okay. Lui canticchia e poi dormono, insomma, direi. È abbastanza inequivocabile. Non penso che abbiano un attacco di sonno generale. Allora, dato che lo lancia mentre sta facendo la sua performance, gli chiedo di fare una prova di performance per mascherare il lancio dell'incantesimo. Uno, suoni, ti fermi, casti e riprendi a suonare. È tipo 19. È tipo i giovani vistani che passavano per le strade. 19. No, invece no, 19. Okay. 12 non, più si 7. Non si accorgono che stai lanciando l'incantesimo e tre di loro si addormentano. Ne rimane uno. Solo tre. Ah, sono cinque? Sono quattro. Infatti uno rimane sveglio e abbastanza allarmato perché ha visto i tre suoi compagni cadere. Potete tirare l'iniziativa. Okay. Ma scusa, Come siamo passati da nomi falsi a li picchiamo? Perché grazie, tre sono stati addormentati, cosa facciamo? Cioè, nel senso, cosa facciamo? Ah, boh, beh, che però... che si sono addormentati. Però lui in teoria l'ha mascherato. Sì, ma per evitare che questo qui chiami, rinforzi e dire ah, c'è una cosa strana. L'ha mascherato in modo che loro non si accorgessero che gli stava incantando addosso. Vabbè, comunque iniziativa, sì, non vuol dire che lo vogliamo. Perché comunque se tipo una guardia vede altre tre che si addormentano, la prima cosa che fai è cercare di svegliarle. Appunto, bisogna vedere se è più veloce lui a svegliare loro o voi ad addormentare lui. 23. 15. Allora. 17. Allora. Beh, quanto hai fatto? 3 o 4? 14. Sarò comunque 14. Ultimo. Esatto. Durst 17. Ktapl. No, non usare i nomi falsi che ci incasiniamo. Vabbè, non è così difficile. Ktapl dove è finito? Ktapl è andato in bagno. In bagno. Eccolo. Hai iniziativa Ktapl. 15. Guarda come che usa così tanto il polso che ha bisogno di mettersi il ghiaccio, sennò. Aiei ha fatto 17. 17 Aiei, Durst. Sono 15. Le campane, Arce, è per quello che. Sai che c'è? Hai suonato le campane. Sì, oggi impara. Quello che ha suonato a festa. Allenarsi, Pasqua, allenarsi in questo periodo di quarantena. È avete semplice. Messo tutti quanti? Fate come me. No, io ho messo no. Fate come me, scendete nella vostra palestra personale e cominciate a utilizzare gli attrezzi che avete comprato. Io sono nel 29% che ha messo no. Di cosa? Sondaggio. Sondaggio. Ah, c'è un sondaggio? Quello sì, che ha fatto. Chi è che è etero? Senti, chi è che è etero? Salla nel 29% che ha messo no. Esatto. Io mi sono astenuto, lo stesso. Sì, ci sei perdonato. Sfortuna. Cosa è successo nel frattempo comunque? L'iniziativa. Marco, ha castato Marco ha castato sonno, ma ne ha addormentati 3 su 4. Iniziativa. Oh, beh, dai, raga, tiriamo iniziativa per ammazzare uno zingaro. Ma non lo dobbiamo uccidere per forza. Dobbiamo solo evitare che chiami altre guardie e neutralizzarlo. Non so come si fa a non uccidere persone, nessuno me l'ha insegnato. Vabbè, se tiriamo più alto di lui, la guardia forse sopra. In realtà forse io ho fatto 23. Basterebbe convincerlo ad andare a chiamare un medico, però nessuno di voi che è in testa lo farà. Lo farà mai. Magari sì. No, io ho fatto 13 di iniziativa, Katta. Ok, sfortuna? 11. Ok, Elvio. Grazie, non sei ultimo. Sì, ma non servirà. Perché è Giulio il primo. Già. Buonanotte! Perciò ho tirato 9 di 8. Ah, forse un attacco lo manco, però. Ho fatto 10. Però gli altri due hanno fatto 18 e 23. Ah, peccato. Becca solo il 23. Sì, il 10, solo il 10. 10 lo manca. Ah. 21. Vittoria, grande Baldoria. Morto. Gli squarci il mantello e queste, vedete che queste quattro persone hanno addosso un'armatura di pelle, una scimitarra e una balestra leggera. Non hanno monete d'oro? Sì, non d'oro, hanno una, ognuna ha una saccoccia con qualche moneta. Requisiamo. Le... Va bene. Abbiamo delle tombe da riempire, no? Sì, è pieno di tombe vuote. Vuoi seppellirli vivi? No, addormentati. No, solo quello morto. Cioè, di quelli tra li lascerei lì. La balestra leggera. Anzi, no, li ucciderei, in effetti, sì. Però... Prendo la balestra leggera. Hai una balestra leggera in più, perché c'avevi già. No, avevo quella a mano. Quella a mano? Ma se li, seppelliamo vivi? Ho detto che avevo una balestra a mano, adesso... Merda, quindi l'ha ucciso. Che rubano zingaro. Giusto. Perché sei diventato così malvagio? Beh, non sono un ladro, perché... sono un archetrickster. Qualcuno così di non voi, possiamo dire... Qualcuno di voi è bravo a... come si dice, a camuffare? Sì, io. Divento un gorilla. L'archetrickster, direi. Sì, dipende ma... cosa. Se deve sembrare vivo o no. Lo portiamo... non hai forse. No, nel senso tipo... che potremmo... Cioè, potremmo ammazzare gli altri e fare finta come se fosse una scena dove si sono attaccati tra di loro. Però ci vuole qualcuno che sappia ben camuffare. Sì, è più, secondo me non è camuffare, più. Ma non facciamo, non è meglio se li facciamo o almeno facciamo sparire quello morto. Ma basta, se, cioè. Se no, se volete farli fuori tutti, li facciamo fuori tutti e poi camuffiamo, cioè nascondiamo le tracce e questi li facciamo sparire. Cioè, piuttosto che camuffare, che far saltare un allarme, facciamo sparire chi deve sparire. Vabbè, ma in realtà basta ucciderli e poi fare in modo che sembra che si siano uccisi. E se li portiamo all'orfanotrofio? Del paladino. Se li chiudiamo dentro l'orfanotrofio, dormiranno. Sono dei nemici del male, quindi sono, cioè, sono comunque dei malvagi, quindi... Ma erano delle povere persone che facevano il loro lavoro. Vabbè. Non sai se erano malvagi. No, sono i vistani, sono malvagi. Anche l'SS, allora. I vistani sono malvagi. E Smeralda sono anche più bassi di noi. Esmeralda è la più malvagia. Esmeralda infatti ci ha abbandonato. Abbiamo salvato una bambina vistana, l'abbiamo portata al capo dei vistani, che tra l'altro sono questi, sì, che ci ha dato tutto un facciamo sparire, esatto, questo qua. Non sono tanto malvagi. Io propongo di facciamolo sparire. Io propongo, vabbè, questo possiamo metterlo in una delle bare, gli altri tre l'orfanotrofio, si risveglieranno domattina senza aver capito che cazzo è successo. Lasciali così per strada. Così, così, così per strada li trovano prima, però. Vabbè, ma non è un problema. Che li trovino meno, non perdiamo tanto tempo questo, nascondiamolo alla buona dietro una casa. Sì, tanto, regà, tre dormivano, uno è morto, direi che pochi possono dire che è successo. Sfortuna, ti ricordo che sonno dura un minuto. Ma immagino che loro decidano cosa fare. Esatto, infatti, nascondiamolo. Molto subito. Dura solo un minuto? Sì, sonno dura un minuto. Allora li nascondiamo. Perché no, li nascondiamo, dai. Io in un minuto li uccido, cioè in un minuto non facciamo un cazzo. Vabbè, in linea con Giulio. Scusa, scatta dove in siamo? In un minuto non li sposti, al massimo in un minuto corri via. A metà strada tra la locanda e la... Allora, noi potremmo anche andare via. Il problema è che si svegliano, l'ultimo ricordano che andavano giocando. No, io li ho uccisi, se ne... cioè, nel senso, li uccido. Fine. Io lo aiuto. Ok, li uccidete. Ora avete quattro cadaveri in mezzo alla Credo strada. Credo che ci sia Yak che sta sparando una serie di risate. Allora, Andreoli Giovanni, buonasera, buona Pasqua a tutti buonasera. Voi. Buonasera. Buonasera, grande. Jurassic Park, cosa c'è? E i Rega insieme, perché Jurassic Park stanno facendo vedere su Italia 1. Siete dinosauri. Come quelli che i bimbi trovano negli uovi. Esatto. Negli uovi. Bellissimo. Negli uovi. Negli uovi. Ecco. facci vedere i dinosaurini, così è contento Iac. Faglielo vedere. Guarda le risate che spanno. Infatti tipo ha notato per quello, perché tipo ha catturato la mia attenzione visiva. Fagli vedere il tuo velociraptor. Luridi, questo uovo qua, tanta roba, ti avremmo bloccati. Cazzo è quella cosa? Non segue le mie storie, stories. Sì, l'ho vista. No, non seguo le tue storie. Male. Fotografi, quarantini. Apro Instagram tipo una volta ogni tre giorni. Se tu ci metti l'hashtag street photography, però a me hai risposto al sondaggio, Sara, te non segui le tue storie di merda. No, infatti. Non sono una figa. Bene. Neanch'io. Va bene. Invece io e Vez l'ho seguita la tua strada di dinosauri. Grazie. La risposta. Sì. Atanas, cosa ne facciamo dei corpi? Ci sono questi quattro corpi. Metterli nelle tombe. Quello che facciamo ogni sera. Li mangiamo, ma... Pensavo peggio. Sì, io anche direi di portarli nelle tombe. Tratta, è inutile che cerchi di non rispondermi. Quanti soldi abbiamo raccimolato derubando? Sì. Scusami, ero scordato. Visto che giriamo con 20 monete di rame spaccate, trovate altre 20 monete di rame. Uno aveva una moneta di Electrum. Se qualcuno le prenda, io non le segno. Cioè. Ma Tonas segna le scelte. Ma non servono a niente in Barovia. L'Electrum in teoria è... cioè, vale abbastanza. È mezz'oro. Mezz'oro. Vabbè. Scusa, non era con voi che infilavo le monete negli occhi ai bambini invisibili? No, era nella mia quella tra te e Giulio, che facevate tu e Giulio. Sì, che gran coppia. Cioè, era tipo frustrazione alle adolescenziali lasciate libere, tipo. Madonna. Allora, mi trovate, io uccido un bambino, prima lo stupro però. L'ho messa nel curriculum quella campagna. Io uccido un bambino, no, non lo uccido. Raga, prossima campagna, tutti i personaggi malvagi e stronzi. Io lo acceco, gli metto le monete negli occhi e lo rendo invisibile, così urla e nessuno lo vede. Sì. Ma sì, in sì. Questa abbiamo il legale, buono. Ma forse legale, Arci, buono. No, vedete anche una donna, uccido anche la donna. No, aspetta. Prima la decapito, poi muore. Un sondaggio ai nostri spettatori: chi è il legale buono? Questa era difficile. Meglio non sapere la risposta. Ok, trascinate quattro corpi per la strada fino al... No, vabbè, aspetta, te lo dico io chi è il legale, buono. Diamogli una degna sepoltura. Trasciniamolo, io lo porto in spalla. Posso anche andare. Sì, cioè, non dico correre, ma io e Coso, il nano li prendiamo. Il nano barbaro li prendiamo in spalla. Tu. Okay. Io muovo la terra da sotto qualche cadavere e la rimuovo. Qualcuno di voi faccia da guardia. Io faccio da guardia. Aspetta, puoi seppellire qui in mezzo, effettivamente. Esatto. No, continuate, vi prego. Ma perché lui arriva sempre dopo? Dille le cose. Dai, muoviti. Io l'ho detto che lo facevo. Ti guarda litigare e poi... Dai, facciamo veloce, la soluzione. Sì, allora sì, se seppellicili qua il più velocemente possibile. Allora, aspetta. Lasciamo fuori tipo una mano, un piede. Perché? Un pene? È una cosa che non mi convince sul seppellirli. Smuove la terra. Sarà un po' un dosso. Sì, no, in effetti si vede la terra smossa. Se lo facciamo in un angolo dietro una casa, costo sarà comunque meno tempo che tornare alla chiesa, no? Bene, cioè avremmo fatto 200 metri, non è che avremmo... Non lo so. Non è che abbiamo da fare una scarpinata. È tu l'incantesimo, Marco? Si chiama... Vinco. Old Earth, plasma terreno. Da un country. Sì. Ma tipo fare la cosa che dicevo io invece no, assolutamente. Cioè? Cioè far finta che... Cioè far sembrare che si siano uccisi tra di loro. No, perché è difficile, dopo cercheranno. No, è che dai un allarme comunque. Però poteva almeno essere dopo, tipo un'occasione. Almeno dopo sono scomparsi e basta. È che io stanotte agirei, cioè andrei tipo a uccidere Lady Vactor. Tante cose che vuoi fare in una notte, stanotte Damiano. Sì, sei direttamente perché... adesso? Sì. Ok. Quindi tu dici usarlo come diversivo? Cioè, magari tipo la gente, cioè, vanno a indagare lì, intanto noi andiamo da Lady Vactor. Vabbè, se no ci nascondiamo... Ci nascondiamo tutti e... Incendiamo la città. Perché... No. Sì. Ma moriranno... No, moriranno molti innocenti, non ha senso. Se no, Vez, ci nascondiamo tutti e l'Arcane Trister camuffato dice ho visto tutto, li hanno uccisi, sono scappati fuori dalla città ora. Roba così, ed è super diversivo. Boh. Che era inganno uno. Cioè, diciamo che io avrei voluto scoprire qualcosa in più su Lady Vactor, però mi pare chiaro che il nostro tempo qua è limitato. Ho detto, ma mi hai ascoltato? Sì, ti ho ascoltato. Dicevo fare un diversivo per dirottare le guardie altrove in modo che magari si allontanino anche da Lady Vactor e non sia super circondato. Se no non posso, Okay. il più classico dei diversivi usato da noi. Marco, dai fuoco a qualcosa. No, rega. Vabbè, io comunque nel frattempo questi cadaveri me li ero scaricati in spalla, io ho portati alla cazzo. Vabbè, dai, sì, nascondiamoli lì, poi tanto torneremo, ce ne saranno degli altri, piano piano così faremo fuori tutti lupi. Evoco dei lupi sopra i corpi che li smantellano. Siamo la città, bravo, va bene, dai, nascondiamo questi corpi. Ma scusa, ci sono già delle fosse scavate, non dobbiamo neanche far fatica. Ci sono già scavate le fosse, portiamoli lì. Sì, però sì, adesso Kat dirà non c'erano fossi scavati. Sì, ci sono tutte le fosse che volete, okay. Al cimitero. Va ovviamente bene. Allora li portiamo al cimitero e li buttiamo lì. Meno che non troviamo l'apocalisse zombie al cimitero. No, perché sono vuote. Va bene. Se fossero state piene l'abbiamo fatto? Lasciate di giocare. Quelle aperte sì. Nella strada ad aspettare. Li rimettete, li posate nelle fosse che trovate. Fossa. Beh, tutti in una, cioè. Tutti in una fossa. Come volete. Le ricopriamo, ovviamente. E le ricoprite. Beh, se non ci stanno, li taglio a pezzi, non è un problema. Ci sta a fare due fosse, se no due. Ecco, magari per ricoprirle può usare l'incantesimo. Per lo velocizzare. Spazio non è un problema. Quindi le ricoprite. Può farlo Marco col... Marco con voi, sono restato là per coprire le tracce. Okay. Quello con plasma terreno posso farlo, sì? Togliere il sangue da solo. Certo, allora... togli il sangue. Lo puoi fare benissimo, dimmelo prima. Plasma, terreno, plasma. Vabbè, intanto tirerei tutti gli altri per velocizzare la cosa, o almeno in tre andiamo a scavare, cioè a coprire. Ok. Vabbè, ma il mucchio, cioè ci metti poco, il mucchio di terra lì di fianco, sì. Lo spingi. Cioè, in teoria sì, però in tre, sì, cioè sì. Più siamo, meno tempo ci vuole. Sì, sì, ci mettete poco e... Ci riusciva il vecchio zoppo. No, ci riusciva Milivoji, che non era vecchio. Oggi non era vecchio, non era zoppo in realtà. Che aveva un grande dito. No, non era esattamente in salute dopo i miei interrogatori ripetuti. Questo è diciamo... Chissà perché è scappato. Vabbè. Non può avermi riconosciuto, l'ho visto totalmente in maniera diversa. Scusate. Ok. Quindi ricoprite la tomba col terreno. Sì. In una o due, vabbè, non cambia. Dopodiché, quindi, immagino ritornerete sui vostri passi e vi ricongiungerete con Sfortuna. Sì. Esatto. Ok. E gli altri, se anche gli altri ci vanno altri mistani, cosa? Vedete quattro figure. Non incontrate altri gruppi, probabilmente perché la strada che doveva controllare quel gruppo, insomma, era questa, e quindi non c'è un altro gruppo a controllarlo. E non l'hanno controllata. Bene, abbiamo controllata noi per loro. Arrivate alla locanda, tutti morti. Da che entrate? Da dietro. Ok, domanda. Sto per dire da quella principale, però va bene. Qualcuno sta fuori da fare da palo? Entriamo tutti. Entriamo tutti. Le due è meglio non farci vedere per strada. non ci facciamo vedere per strada, okay. Andiamo da dietro. Ma scusa, abbiamo 2000 animali, cioè questi 2000 sì, animali c'è, possono c'è, fare da palo. È vero. 2000 animali. Sì, il famiglio di sfortuna, il pipistrello di Race. Stop, perché il mio alce è fuori. Sì, ah, l'alce, cioè, io, la mia scimmia è ancora viva, vero? Sì, sì, noi giriamo sempre una scimmia in teoria. È vero. Gli hai insegnato dei trucchetti. Vabbè. Gli hai insegnato dei trucchetti. Gli hai insegnato di rubare i cadaveri. Da buon druid. Arrivate sul retro della locanda, dove c'è l'ingresso alla stalla sul retro. Il portone è chiuso. Lo apro. È chiuso con un catenaccio. Cioè. Lo apro. Non ci ha dato la chiave, catta sei serio. E se è aperto, lo chiudo e lo sfondo di nuovo. Lo apro io, lo scassino. Ok, lascio che lo aprano quelli che lo farebbero in modo... Cioè, io sono andato di là pensando che avessimo cioè potessimo entrare, cioè lo davo tipo per scontato. 24. Sì, ma di notte di solito le porte si chiudono. Sì, però... Nel senso, no, lui, quando c'era lui... No. L'avete ammazzato lui. Però lui, cioè nel senso, sapeva che noi andavamo là e che saremmo tornati... Vabbè. Prova a bussare. Dalla porta d'ingresso principale potete entrarci tranquillamente. Cassini il catenaccio, potete entrare. Entrate e... Cos'è antisgamo? Cioè... Ci vedono entrare dal retro. Buonasera. Arriva. Magari lui sente i rumori, ci fa un agguato e io lo ammazzo. Perché non lo riconosco. Beh, cosa c'è di così divertente e di poco probabile, Giulio? Esatto. No, è tipo, arriva questo e fa... tipo, cosa fate? E lui... Martin, come? Ma questo è un agguato! Non volevo... probabile. Esatto, esattamente così. Entrate dal retro, qui ci sono le quattro cose dove stanno le bestie e sopra c'è il granaio. Da sopra spunta uno con una balestra e vi fa alto là, chi va là? Siamo noi, ecco. Siamo noi, calma. Oh, peccato. Vedete che è uno dei garzoni di Martin. Calma, siamo noi. Avreste dovuto lasciare aperta la porta, ma ci abbiamo pensato noi. Ah, No, era aperta la porta. Avevo chiuso tutto per impedire l'accesso ad estranei. Vedete? Noi non siamo estranei, però va bene, fa lo stesso. Non ci siamo capiti. Già che siete qua, qui su. Solo io lo perdo. Già che siamo qua, no. Tutti abbiamo perso. Sì, lui dice. Hai lagato tutto. Quindi insisti. Già che siamo qua. Ho detto. Lui vi dice a uno di voi di venire un attimo su a vedere una cosa. Estraggo la... Si era rivolto a Bardistran. Va bene. Salgo. Perché di solito lo ascolta lui. Sì, però, va bene, salgo. Chiunque può venire. E ti porta qui sopra dove vedi questo soppalco dove viene tenuto la biada per le bestie. Sì. E ti fa vedere negli angoli dove tiene nascosti i bambini. Sì. La biada. La biada. La biada, sì. Cosa dovrei vedere? I bambini. Ti fa vedere dove li tiene nascosti e detto ci facciamo, cioè, alterniamo la biada col prosciutto. ci alterniamo con gli altri ragazzi per tenerli un po' d'occhio, perché stiano bene. Fortunatamente non fanno rumore, molto buoni, anche troppo per essere dei bambini. Si vede che... In che senso buoni? Non fanno quasi rumore. Ah, ok. Nei tortini sono vantati. Va bene, stai facendo un ottimo lavoro. Se potete darci, qualcuno di voi può darci una mano, così magari riusciamo a fare i turni più facilmente. Ma certo. E Martinkov dorme? Grazie mille. Sì, se volete lo vado a svegliare. Sì, chiamacelo qui. che dobbiamo chiedergli un po' di cose. D'accordo. Per favore, finite di mettere a letto i pargoli. Ma certo, certo. A letto. Poveri innocenti. Va a chiamare Martinkov, che dopo qualche minuto arriva e gli chiede: ah, va tutto bene? Come è andata l'operazione? Per certi versi l'operazione è andata bene. Purtroppo, nel senso che abbiamo eliminato il problema, il pericolo, la progenie. Purtroppo però abbiamo scoperto chi era la progenie. Altri non era che purtroppo quello che rimaneva del corpo di padre Lucian. Deve essere stato il demonio. Probabilmente è entrato in città senza che nessuno lo sapesse, nessuno ha potuto fermarlo. È strano però, perché la chiesa, da quel che sapevo, era protetta. Ormai sapete voi meglio di noi, le sue vie sono non in un senso buono. Io perdo tipo il 70%. Sì, anch'io perdo un sacco di quello che dice. Però vabbè, forse ci possiamo far poco. E perché l'acqua... stiamo per uccidere? Però le altre volte non andava così male. Ah, giusto. Cos'è che ha detto? No, tenevo aperto il vostro streaming, forse quello mi ciucciava un po'. Ah. Magari così va meglio. Per il momento sì. Sì, beh, vabbè, insomma, ormai quel che è fatto purtroppo. Martinkov. Cosa è successo? Martinkov ci ha attaccato e tu l'hai ucciso. No, non è vero. Però era per darti un contentino. No, in uno scatto di ira. Stiamo parlando con Martinkov. Sentite. Oggi si sentiva. C'era un grande subbuglio nelle ore in cui che avete trascorso. Appostati nell'orfanotrofio. Cioè, cosa è successo? Dove c'era un grande subbuglio? Qui in città era un continuo di perquisizioni e di interrogatori delle nuove guardie. E, sembra che siano tutte in allerta. Probabilmente è successo qualcosa, ma non saprei che cosa. Riguardava dei lupi per caso? Dei lupi? In che senso? Non lo so perché so, i lupi, gli animali pelosi con le orecchie. È probabile che che qualcuno sappia della nostra del nostro arrivo, purtroppo, e in qualche modo per questo ti volevo chiedere la situazione in città com'è, cioè Lady Vaktar, per esempio, dove alloggia, al suo palazzo o in un'altra località? Sì, lei risiede nella sua villa. E quanta gente la controlla? Non lo sappiamo. Di sicuro ci sono i suoi. Ci sono i suoi? Ma due figli, che avete anche conosciuto. Non ti saprei dire che cosa si nasconde nei sotterranei di quella casa. La maggior parte delle guardie risiede nella vecchia villa del Borgomastro e da lì si sposta e pattuglia la città, però non sappiamo altro perché c'è il coprifuoco e quindi di notte non possiamo uscire. Ho capito. Infatti non avete il coprifuoco. Ma lui non è un cazzo di Corvo Mannaro. Ah no, stiamo parlando col Garzone. No, col Martico. No. Anche il Garzone è un Corvo Mannaro. Quindi il coprifuoco, cioè, nel senso, sono molto ligi alle regole. Controllano anche i corvi. È che se vengono a controllare noi non ci siamo e non ci trovano, rischiamo di finire nei guai. Non è comoda sta scusa. Non possiamo rischiare. Comunque sì, abbiamo visto che c'è stato non una retata, però intensificato un sacco i controlli, non capisco perché, e non vorrei che se succedesse qualcosa decidessero di fare eruzione qua e per i bambini, cioè, non ci sarebbe, vabbè, scampo. Lui il carro provare con le cose l'aveva già mandato a Kretsk, giusto? Sì. Sì. Ok. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo provare a fare un attacco notturno? Vogliamo aspettare di avere maggiori informazioni? Cosa vogliamo fare? Noi come incantesimi e punti vita come siamo messi? Io ne ho, se non lo sei tu. Ne ho persi due di secondo, quindi me ne rimane solo uno di secondo livello, però per il resto dovrei No, Cato, non mi ricordo se quando vi ho salutato avevamo fatto il riposo lungo, breve, medio. No, tu hai perso una forma selvatica e basta, mi sa. Vabbè, io quella riprendo dopo il riposo breve. No, più che altro perché vogliamo attaccare così... Sì, se questa cosa la dici l'anima in presenza di Martinkov. Cosa dice? Che agitare ancora di più le acque significherebbe la rovina per loro in questo momento. Beh, se stagliamo... Beh, ma loro non stanno già pensando di andarsene da questa città. No, ma no. Vabbè, però scusa, non è pensabile avere qualcosa di diverso con le Divactar, mentre eliminandola forse possiamo prendere il controllo della città. Più o meno i vistani quanti sono? Ne abbiamo una vaga idea? Quelli che erano al villaggio. Io di giorno ne vedo girare almeno una ventina, però non so tra queste quanti ce n'è. Perché volendo potremmo attaccare le varie pattuglie che girano per la città di notte, prenderne 4-5 alla volta e praticamente fare fuori la guardia cittadina. Stanotte. Non è, e dopo chi rimane a garantire l'ordine pubblico in città? Noi. Noi. E quando noi andiamo via? Perché attaccare Lady Vaktar vuol dire trovarsi Lady Vaktar e 20 guardie intorno. Se invece sguarnisci la guardia cittadina, le domani sarà impazzendo. Io non ho capito perché dobbiamo attaccare Lady Vaktar. Cioè prendere la città. L'idea sì, è prendere la perché città. Perché attaccarla così, nel senso, noi possiamo andare a trovarla Lady Vaktar. Poi magari la possiamo anche uccidere, ma nel senso... Comunque vi ricordo che lei è quella che ci ha fatto il culo l'altra volta. No. Ah, c'è gli scheletri nel sotterraneo. Esatto. E nell'armadio. Vabbè, era anche tante sessioni fa, ma allo stesso livello. Eravamo allo stesso livello. No, siamo saliti di livello. No. Forse uno. Nel senso, noi in realtà con la di Vaktar, per quello che ne sappiamo, abbiamo buoni rapporti. No, in realtà no, perché si saprà che noi abbiamo fregato Strad. Sì, l'ultima volta io con la di Vaktar sono d'accordissimo. Sì, però noi siamo palesemente schierati contro Strad nelle nostre ultime mosse, di conseguenza anche contro di lei. Beh, anche gli altri servi di Strato lei ha il potere, lei ha il potere grazie a noi. Sì, autocratico sì, però è anche vero che Strad le avrà fatto presente che l'abbiamo ingannata. Ma Strad secondo me se ne sta fregando abbastanza di tutta sta situazione. Però lo sappiamo, cioè speriamo, magari. Cioè tu dici di andare da Lady Vaktar e magari allora, stringere una sorta di accordo. Ma magari possiamo andare lì e poi ucciderla, ma nel senso... Lui dice cioè, di non farlo senza andare a saltare. Esatto, vai lì e salve Lady Vaktar, come sta? Vabbè, però se vogliamo prendere la città... Allora in ogni caso chiedo a Martinkov... Tanto vale che lo facciamo con... agiamo nelle tenebre... No, però abbiamo ancora comunque l'effetto sorpresa sulla guardia. Cioè, il problema... Tra l'altro volendo anche i Vistani, in realtà il capo Vistano gli abbia riportato la figlia, quindi cioè potremmo assieme ai Vistani andare contro le Divacche. Poi per carità, se io devo ammazzare delle persone, se Atanas deve ammazzare le persone non è che si faccia troppi problemi. Mi sembra difficile portare i Vistani dalla nostra, cioè dipende qual è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è prendere la città o semplicemente avere dalla nostra l'aiuto di questa città, perché sono due cose diverse. Allora, nel senso, noi siamo riusciti a, diciamo, a portare le provviste a Kretsk. Ora non sarebbe male riuscire a, perché il discorso è questo: più passa il tempo più la gente sarà dalla parte di Lady Vaktar, sostanzialmente. Forse se quindi... hanno ragione, gli ha dato lavoro, certo. Ricchezza, bene. Esatto. Noi queste cose dipende, non le vogliamo dipende, togliere. Qual è il nostro Qual è il nostro obiettivo in questa città? Portarla a nostra morte. Se esiste la possibilità, portarla, cioè togliere anche questa città dalle mani di Strad. Quindi eliminare le divatte. Esatto. Cioè, quello, che facciamo, quello che facciamo meglio, portare miseria e morte. Esatto. Cosa volevi chiedere a Martinkov? A Martinkov volevo chiedere se lui ha una cerchia di persone di cui si fida all'interno della città, che non siano i tre garzoni che ha qua, che eventualmente siano in grado di supportarci in una rivoluzione. Cioè, dovessimo portare giù Lady Vaktar. Vogliamo che ci sia qualcuno che possa prendere il suo posto come al potere. Però... numericamente sì, siamo in netta inferiorità. Vabbè, l'inferiorità rispetto alla popolazione è poco rilevante, nel senso, una volta eliminati i Vistani non ci sono altre guardie. Sì, no? Ma chi... cioè, dopo chi ci mette a capo questa città? Le nostre fonti ci dicono che sin da quando c'era il barone, Lady Vaktar aveva organizzato dei circoli di suoi sostenitori, che chiamava circoli letterari, che sono molto diffusi adesso, chiaramente lo sono ancora di più, sono quasi diventati... Come si fa ad entrare in questi circoli? Questo lo sappiamo, ne avevamo anche trovato tipo uno, esplorando una casa, tipo. Si entra tramite invito, dopo... uno dei nostri ha provato ad infiltrarsi e ha visto che è una setta molto gerarchizzata, in cui un iniziato passa un sacco di tempo a leggere delle preghiere, dei testi sacri, prima di conoscere il nome di qualcuno che sta un gradino sopra di lui. E quindi non si scala così la gerarchia nelle confraternite. Non vi hanno insegnato nulla. Beh, non era nostra intenzione addentrarci troppo, anche perché rischiavamo di esporci. E, quindi sì, la mia opinione è che anche se si riuscisse a sovvertire un'azione violenta il governo, il rischio poi di una rappresaglia è troppo grande. E rischiamo che ci distruggano tutti. E quindi cosa suggeriresti? Per adesso, finché riusciamo a rimanere a lavorare e a rifornire la popolazione di Kretsk tramite questo scambio, questo commercio, direi di continuare così, perché io non so in che modo Lady Vaktar riesca a rifornire con tutto questo cibo questa città, non ho idea di da dove riesca a tirarlo fuori. Beh, sicuramente sarà Strad che glielo procura. E se invece di... Nel momento in cui questo fornimento venisse meno, non avremo modo di... Ok, se invece di attaccarla direttamente... Sì, dobbiamo prima minare la sua autorità, mi piace. Dopo il vino viene il cibo. Vado a bere un bicchiere d'acqua, e la sigaretta e il caffè. Esatto. Sì, dobbiamo minare la sua autorità, quindi dobbiamo chiudere questi traffici e... Sì, è una cosa lunga, minare la città, mettere su una ribellione, cioè... Scusate, ma perché volete fare queste cose? Per riparare al danno che abbiamo fatto qua. Cosa ne fate di questa città? Non è meglio se commerciamo con questa e ci teniamo la fortezza, che è molto più difensiva? Che alla fine, cioè, commerciare con questa città è anche abbastanza complesso, cioè, nel senso, per ora l'abbiamo fatto noi perché siamo andati noi, però non è che se ci mandiamo uno di Kretz che ce la fa, mi sa, a commerciare. Temo. Poi non lo so. Cioè, è che questa città, più il tempo passa, più è dalla... diciamo anche. Sì, ma il punto è che già prima lo era. Sì, noi abbiamo provato a dal lato di Lady Vaktar, nel senso, i circoli già c'erano, cioè Lady Vaktar era già molto influente prima. Ok, adesso Martico, okay. Ma questi rifornimenti? Niente, andrei su un obiettivo più sensato. Cioè, noi abbiamo rifornito coso, amen, la città è questa. Cioè, vediamo se magari riusciamo a creare un po' di casino almeno sui rifornimenti. Forse riusciamo. Cioè, se vogliamo scoprire da dove arrivano questi rifornimenti, può avere un senso. Ma noi abbiamo un sacco di altre cose da fare oltre a star qui in questa città. Beh, tipo sì, in teoria. Però in che ordine? Cioè, alla fine sono cose un po' così. Ma insomma, dobbiamo andare a uccidere una strega, eventualmente. Oppure andare all'ordine del drago. Sì. All'ordine del drago d'argento, andare alle montagne al tempio. Sì, cioè, quella che è più importante sarebbe il tempio, che però non siamo mai pronti. Però il discorso è qua, se riusciamo a evitare sto traffico potremmo creare una situazione tale per cui potrebbe esserci la possibilità di recuperare la città. Ma forse nel lungo periodo, non in due giorni. Scusa un attimo, a noi qual è l'interesse di recuperare questa città? Cioè, nessuno. Beh, anche perché la gente sta relativamente bene. Esatto, le due ti si incazzano. Cioè, rispetto ad altre città che abbiamo salvato. Rispetto alla stessa città, quando siamo venuti la prima volta, stanno meglio. Oh, vabbè, come volete. E allora, ci può anche stare. Ma gli chiedo a Martinkov se su questi traffici sa qualcosa. Cioè, chi li porta? I vistani? Non abbiamo visto delle carovane di... Quindi vengono creati... In questa terra trasmutazione o hanno dei metodi appunto arcani che io oppure strada è una roba per teletrasportarsi un po' ovunque. Vero anche quello, non so se lui lo sa. Ah, interessante, voi come lo sapete? Beh, io c'ero, ci sono stato. Questa no. Ma visto anche una cinematic noi. Esatto. Questa è un'informazione estremamente importante. Basinga. Bene, adesso anche l'unico infiltrato in città che si fidava. Una domanda di geografia. E la strega da quanto dista da qua? Adesso te lo faccio vedere. Però Martinkov vorrebbe sapere molto più dettagli su questa cosa del teletrasporto. che cazzo ne so. Cioè, in pratica, nei sotterranei del castello. C'è sto boom, calice tipo con dentro delle pietre. E ogni pietra, se fai qualcosa che adesso non mi ricordo, ti permette di trasportarti in un punto che è qui, Kretsk, non lo so, non mi ricordo, qualche altra parte in giro. Questa è una cosa importantissima. Vi dovete dire tutti i dettagli che vi... Noi a che piano siamo? Appena fatto. Aspetta, come hai detto, a che piano siete? Siete ancora sopra con i bambini? Nella stalla, sì, con i bambini che dormono, quindi dovete parlare piano. Quindi stiamo facendo tutte queste conversazioni con i bambini. Sì, vabbè, un po' più in là per non svegliarli. Condividendo lo schermo. Vabbè, non è che urliamo. Allora, vediamo cosa vedete così. Allora, voi siete a Vallachi, che è qua. In cui c'è il castello, dove stava l'ordine del drago, sconfitto da Strad, e che da allora ha giurato... Cata, mi dà un fastidio che ti sento parlare. E poi scopa... Mi sforzo a dover inventare cosa dici tu. Può essere un vantaggio, Arci. Saliamo di livello? Hai detto... No. Questo l'ho sentito, perché il no... No, non io vi sento benissimo, mi dispiace che voi mi sentite a scatti. Non tipo, è come se finisse la parola prima. Forse ogni tanto vai via. Beh, dai, bilancio il fatto che vediamo a scatti verso... Deve essere la sensibilità del microfono, Catta. Non so, provate a togliere la riduzione del rumore. No, si blocca. Vabbè, non ti preoccupare. L'avevo messo la linea. Ah, nelle impostazioni dove taglia. Esatto. Ho capito. Voce video E vai giù e c'è scritto determina automaticamente la sensibilità. Me lo metto non al minimo. È automatica e la metti a meno 95, 96. Meno 99, direi che così non dovrebbe tagliare più niente. Ok, spero che abbia risolto. Vorrebbe di sì. Mi sto sentendo tutte le parole. Non urlare. Sei un fro, lo prendi nel cu. Decimo livello. Sei un fromboliere, le prendi nel cuculo. Bravo, era proprio quello. In Q dire a Kata non urlare, no. Bellissimo. Quando mai? No, non so. Allora, voi siete qua. La cosa più vicina a voi, a seconda della strada che prendete, è o il castello dell'ordine, oppure ancora più a sud ci sono le rovine di Beretz, quella città che è stata sommersa, dove si dice quella dove hanno ucciso, Lady, anche lì ovviamente sempre la solita storia. Siete anche vicini al vecchio mulino delle vostre amiche, se volete. Dai, andiamo ad ammazzare le streghe. Dopo che è stata streghe, allora, quelle che hanno rapito l'altro figlio. Dopo che è stata sommersa, gli abitanti hanno cominciato a bere. Sì, io andrei a vedere magari se dalla strega dell'altro figlio, però è lontana, immagino. Dell'altro figlio? Sì, di quella che ha attaccato. Ah, sì, vedi, fai un'ora e mezzo fino a questo bivio e poi 4 ore e mezzo a sud. No, aspetta, che strega? Quella che ha fatto da Bali a Strad? O quella che si racconta abbia fatto da Bali a Strad e che sembra abbia ucciso il figlio di Martinkov ed è sparito anche l'altro. E poi la strada delle montagne invece va fino qui, attraversa questo ponte, che è a molti metri di altezza, che si chiama il Passo di Zolenka. E poi si perde nei monti e si dice conduca al tempio maledetto. Però lì non il tempio siamo d'Ambra. Ancora pronti, forse. Anche perché per arrivarci dovete appunto prima attraversare il territorio dell'ordine e il territorio della strega. Allora, con Martinkov rimaniamo così, che lui dovrebbe, vabbè, intanto vai, porteranno i bambini coi corvi domani. Sì, domani faremo il trasloco, se ci riuscite a, non so, a usare le vostre abilità per camuffare il nostro trasporto. Del tipo? Non dovremmo portarli nella città, nel villaggio abbandonato degli elfi, i bambini. No, avevamo discusso e alla fine li tenevamo qui e poi li portavamo. Ho capito, ma i corvi arrivano qua e li portano in volo dei bambini. Ah, cioè, nel senso, come... cioè, ragazzi, va bene tutto, però. Usiamo il villaggio. Mi chiedo se possa convenire farlo a sto punto domani o adesso. Ah, questo non saprei. Le porte saranno chiuse adesso. Muoversi di notte è sempre più rischioso. Però all'atto pratico domani sarà un gran casino perché non troveranno delle guardie. Allora, io ho mandato il garzone che ha portato le provviste a Kretzk, gli ho lasciato detto di dire a mio padre di questa cosa e quindi domani arriverà con quanti più aiuti possibile per organizzare il trasporto. Cosa? Lo farei, io dico userei come letto domani il villaggio. All'alba, facciamolo all'alba, portiamoli fuori all'alba, tipo nelle botti. Sì. Ok. E dobbiamo inventarci una scusa plausibile, non lo so, andiamo a commerciare con... Vabbè, è un secondo carro che va verso Creta. La stessa scusa che abbiamo usato stasera, incontriamo le guardie. Uscire non è un problema, li conoscono i miei ragazzi, basta mettere uno che guida il carretto e che deve andare a fare una consegna. Va bene. Bisogna giusto assicurarsi che non perquisiscano la merce. Esatto. A parte che di giorno di solito rischioso. Sono ubriachi, perché noi siamo entrati di giorno e... Alcuni sì, ma non sempre. Non sempre. Vabbè, al massimo puoi corromperli con del vino. Potrebbe essere utile andare, diciamo, a rallegrare lo spirito delle guardie e renderle meno attente nel momento in cui passa il carretto. Certo. Se qualcuno di voi Non è che per caso hai un telo? Sì, tutti quelli che vuole, quanti ne, cosa gli serve? Delle, delle coperte o delle pelli? Va bene, facciamo così. Nel frattempo, una volta sistemata questa cosa, tu, mentre noi saremo via, cerca di scoprire quanto più possibile su questo traffico di Kretzk e cerca di estendere la tua rete quanto più possibile. Assolutamente, è quello che farò, sperando che me ne diano la possibilità. Si sono rivelati molto, molto rompiscatole in questi tempi. E cosa se... possiamo fare eventualmente? Non lo so, io ho sempre paura che vengano qui a fare una retata. Probabilmente questa sera ormai è tardi e dubito che si mettano e per a... Cosa verrebbero a trovare qua? Cosa troverebbero di compromettente? Noi abbiamo nascosto qualsiasi cosa, insomma, di sospetta si potesse, ci potesse essere. E sarebbe molto... molto strano dovessero trovare tutti questi bambini qui questa notte. Ok, veramente. Grande, ma a parte questo, normalmente, cioè tu la retata, hai paura perché? Normalmente non ho paura che... non ho avuto questa paura in precedenza perché ah, okay. Nessuno poteva sospettare che noi fossimo quello che siamo, dei corvi mannari. Adesso che invece di fatto la città è controllata dagli sgherri di Strad, non vorrei che questa informazione, insomma, fosse trapelata, fosse arrivata anche a loro e ci si mettano attivamente a cercarci, cosa che prima non avevano fatto. Quella è la mia paura più grande. Come fare per impedirglielo? Onestamente non lo so. Io prego la madre della notte che ci protegga sempre. Vabbè, io prendo la parte, cioè, ma non, vabbè, se no non lo dico lì. Ma perché non vieni, cioè non ti rifugi a Caret? Con noi? Ma con tuo padre? Perché è un bambino. Poi perderemo la possibilità di spiarli e di cercare di raccogliere più informazioni. Chiaramente, ma... se le cose andassero per il verso troppo sbagliato, non avrei altre possibilità e me ne dovrei andare, ma significherebbe lasciarli agire nelle tenebre indisturbati e potrebbero quindi coglierci di sorpresa. Senza che noi li teniamo d'occhio. Sì, sì, no, beh, chiaro. E va bene. Rimaniamo così, allora. Buonanotte e all'alba porteremo intanto i bambini fuori. Abbiamo preparato dei giacigli per voi, sperando che vi... Faremo i turni e tutto, di guardia e tutto. Va bene, Martinkov vi mostra dove dormirete, vi fa, insomma, ci sono un po' di sacchi a pelo, cose così, pelli sparsi per la casa. E quindi vi mettete a ronfare allegramente. Allora, Reis, Vardistan e Garrosh. Passate la notte in preda agli incubi. Non c'è modo per evitarlo, immagino. Fidete a non ammazzare la gente a caso. Neanche io ammazzare. Voi tre sì, ma... non beneficiate dei benefici del riposo lungo. Io non avevo perso vita, giusto Giulio? No, tu no. Semplicemente non recupero gli incantesimi. Esatto. Va bene. Come sto? Tu sei a 96 su 104. Tutto perché volete delle armi d'argento? Non ho capito. È vero che la maledizione della madre notte è perché è... vi ho maledetto io con le armi d'argento. Ma come se come potevo curarti prima di dormire. Credo che non c'è. Perché ci ha maledetto con le armi d'argento? Non ho capito. Perché avete fatto le armi d'argento per le tue armi è maledetto. Con le monete che Salla ha sottratto nella grotta dei lupi mannari, che erano state offerte alla madre notte. Ma c'è un modo per rendersi conto di questo? Allora, questa è la prima notte che vi succede. No, cioè, no, la seconda no, per Reis. Sì, dico loro due, ma in realtà non è vero neanche questo. Terza. Vi era successo anche quando avete dormito nell'ospedale maledetto dell'abbazia. Sì, però quello lo avevamo, cioè penso che lo considerassimo dell'ospedale, cioè che quel posto lì fosse sì. maledetto. E infatti è diverso, perché lì sentivi la presenza maligna esatto. del luogo in cui sei, qua no, non sei in un no. luogo maligno. Esatto, e questo è il concetto. Il tipo di sogno che fai... Beh, potrà fare una prova tipo di religione. Può essere un'idea. Il sogno che fai siete voi che correte nei boschi e siete inseguiti da questa bestia gigantesca che sbuffa e ansima nell'oscurità dietro di voi, che si fa sempre sempre più vicina. E quando vi sta per prendere vi svegliate sudati e affannosi. Però poi dopo, confrontandoci magari, cioè io lo dico per dire che ho dormito male, in modo, cioè sembravo molto scuro, strano, perché qui pensavo di essere al sicuro. Gli altri mi dicono certo. qualcosa? Sentiamo. Ho dormito benissimo, abbastanza bene. Cioè siamo in tipo in 4 a non lamentarsi. In quanti abbiamo dormito male? Tu, Salla e Shiva. Ok, quindi... vediamo tutti la stessa cosa. Quindi ho recuperato tutto. Sì. Vabbè, Salla dice che ha dormito bene. Tu, Sceo? Anch'io ho dormito male, ho avuto le tue stesse sensazioni. Allora la cosa potrebbe insospettirmi. Posso tirare un religion? Sì. 16. 16. Ok. Allora, è molto strano, cioè capisci che c'è qualcosa che non va, potrebbe anche darsi che sia una cosa che ogni tanto capita, diciamo, una tantum, d'altronde non siete nel posto più bello del mondo. No, quello no. Però, se la cosa dovesse continuare ancora, sarebbe molto sospetto, anzi, più che sospetto. Io ho controllato la mia perdonami Katta, per me è già sospetto che... cioè per me è già sospetto, perché comunque non è una roba la prima volta. Per quanto a Barovia è Barovia, a parte quel posto lì, e non c'era mai capitato, esatto, siamo stati in posto e abbiamo tutte e due la stessa cosa, sì. mentre gli altri sono stati bene, quindi sospetto per me è sospetto. Poi se con 16 non riesco a capire niente, ok, sospetto. Però per me è sospetto, no, infatti io ti ho detto che è sospetto per te, e ti stavo per dire che le tue conoscenze religiose ti suggeriscono un certo simbolismo del tuo sogno può essere che chiaramente sono i temi dell'oscurità e il tema della bestialità. E quindi tu puoi supporre che sia qualcosa collegato alla notte, appunto, e all'aspetto ferino di questa terra, in particolare il contesto della maledizione, della mannarosità, no? Della licantropia. Però è molto strano per me, perché delle due mi aspetterei di avere questo problema magari nei boschi, mentre qua o è legato a... No, aspetta, a io sono Marco. Ancora maledetto dalla licantropia. Ops. Finché non trovi una luna piena, non lo sai. Beh, il mio personaggio dà la colpa allo scontro con la progenie. Pensa che sia dovuto a quello. Può darsi. Comunque, ci ha maledetto in effetti. Il simbolismo che cogli nell'interpretazione di questo sogno sono appunto questi due indizi. Pensi che domani, cioè, potrebbe andare via come è arrivato, però se non dovesse andare via allora è preoccupante. Va bene. E niente, allora andiamo a portarsi i bambini fuori. Come li portate via? Nel carretto con le botti, e ci facciamo mettere dentro magari anche un po' di vino, se ce l'ha, così nel caso lo diamo alle guardie. Nella stessa botte dei bambini, mi raccomando. Certo. infuso di bambino. Il bambino. Ah, però... Però nella botte con i bambini, non c'è, so, loro che merci hanno? I Martinkov? Cosa hanno di merci da mettere nelle botte? Cioè, per esempio, del gran pesce da mettere insieme a loro perché puzzino, così non controllano robe. Poveretti. Cosa stai dicendo, scemo? Ho capito. Li vuoi sommergere di pesce? Non c'è abbastanza. Sommergere no, però mettere del pesce allora, in modo che puzza. Chiaramente loro hanno la loro cucina. Niente puzza più dei bambini. Hanno la loro cucina con vari cibi che offrono ai commensali, agli attendenti del. Però così tanto pesce da riempire. No. Ci mettiamo una botte di vino, così la diamo ai. No, no, quello sì, era per vedere se potevamo camuffare. Dice che non c'è abbastanza. Oddio, se lui ha qualcos'altro da mandare a Kretsk, ne approfittiamo, tipo mele e robe così, però non credo. Potete riempire gli spazi che rimangono pochi, perché se scaricate tutti quei bambini nel carretto, buona grazia che rimane intero. Certo. Però non abbiamo due carretti. Vabbè. Uno sta tornando. Va bene, l'avete mandato ieri e adesso sta tornando indietro. Domanda, le dimensioni dei bambini rispetto rispetto? Ce ne stanno due in una botte. Sì, però volevo sapere come altezza. Rimane dello spazio o meno? Comunque mica tutti e cos'è? 13 bambini? Quanti erano? 14. Mica tutti e 14 devono stare dentro la botte, cioè un bambino nel carro. Ce ne stanno due nella botte, no, due in ogni botte, no, li mettiamo tutti dentro le botti. Sì, tutti nascosti. Sì, chiaramente se loro si possono rannicchiare. Se c'è vuoto da occupare con robe per Kretz, che lo facciamo, se no amen. Potete rannicchiarli sul fondo e poi ricoprirli di roba in modo da, come dire, si può mettere tipo metà botte. Una sorta, cioè fare un doppio fondo. Sì, si può fare. Sì, ha più senso. Cioè. Quanto se dovessero fare un controllo, apri, vedi, sono solo me. Potete farlo. Vuole sì. Degli altri soldi? Sono solo bambini. Come dici? Vuole degli altri soldi, Martingo? No, per quelli che gli hai dato, gli bastano ancora per un po'. No, okay. Poi tra un, non so, una settimana, 10 giorni potrebbero essere finiti, ma. Li possiamo dare a quelli che abbiamo preso a prestito ai vistani. Ah, grazie. Come siete prezzo. Generosi. Con questi a posto per un altro po', sempre se non si impennano i prezzi per un qualche motivo. Ignora le gocce di sangue. Tieni Martinkov, nel dubbio, fai commercio con Kretsk. Continuiamo a commerciare con Kretsk in questi giorni, gli do 4 monete d'oro. Perfetto, queste dovrebbero bastarci per molto tempo. Bene. Okay. Tu metti dispersi, spendi, cioè deve essere lì che dai soldi da stramanca. Sì, sì, va bene, tanto qui non servono. Sì, ma voi dalla cassa non me li date, quindi uso i miei. Esatto. Abbiamo una cassa? Sì. Abbiamo una banca. Ce l'ho io sono la banca. Però i tassi di interesse non conviene per prestare soldi in questo momento, quindi si tengono tutti in banca. Avevo lasciato la mappa. Arriva il garzone che deve portare questo carro fuori dalla città. Mm-hmm. E ha detto: sono passato dal cancello, ci sono due guardie e mi pariono ancora sobrie. Bene, portiamogli da bere. Ok, io mi metto a preparare il carro e parto tra qualche minuto. Se volete cominciare ad ammorbidirle. Sfortuna, dove sei? Ciao Sfortuna. Cioè, tu non puoi riaddormentare le guardie, sono solo due. Bah, volendo, sì. Ok, fatto, a posto. Potrei anche fare un'illusione e nascondere i bambini. Vabbè, ormai. Aspetta. No. Però addormentarli in pieno giorno non lo è... fai se c'è bisogno. Vabbè, boh, si sono addormentate e basta. No, lo fai se c'è bisogno. Le vuoi addormentare, versarle sopra del vino e andare avanti? Bravo. Secondo me questa è un'idea buona. Addormentiamo e infichiamo dentro una botte di vino. Dai, andiamo, andiamo. Cosa? Sì, dai. Andiamo, andiamo con lui. Catatonici. Sono catatonici. Lui vi suggerisce di precederlo in modo che così quando arriva sono già qualche bicchiere in là. Va bene, va bene. Andiamo all'ingresso. Sì, aspetta, io qualcuno col carretto ad accompagnare lo lascerei. Va bene. Va bene. Chi va e chi sta col carretto? Direi... Io sto col carretto, che se no ammazzo le persone. Giulio, Sfortuna e Arci. E gli altri due con me. Quindi da... i primi che vanno sono Vardistrand. Io e Giulio, e io, Giulio, io e Bosi. E io e tu e i Bosi, esatto. Quindi tutta la forza diplomatica lasciamo al... Il Dream Team. Il Dream Team. Vabbè, bene, adesso possiamo parlare, possiamo conquistare tutta Barovia. Lo squadrone, squadrone ciminiera. Perché sei sicuro delle squadre? No, in realtà sembrano un po' squilibrate il bene, cioè il discorso in teoria Marco dovrebbe venire con me, però ho più paura del fatto che venga e faccia cose strane. No, in realtà dovresti, secondo me dovrebbe venire con te, perché nel caso sei stato silenziato, si dovesse mettere male. È Marco che l'ultima missione diplomatica è finita con una freccia nel culo mentre bruciava sì, un villaggio. Sfortuna ho paura a portarmelo dietro. Se potessimo metterlo dentro una botte sarebbe più sicuro per tutti, probabilmente. Porti un bambino con te. No, in realtà io me lo, cioè, lo farei venire con te proprio perché ha la possibilità di addormentare le guardie se si dovesse mettere male. È questo di cui ho paura, che le provi ad addormentare, in realtà. E qual è il problema? È quello dell'altra sera, per esempio. Non c'è Giulio. No, beh, il problema non è stato Giulio, in realtà. Beh, veramente sì, l'ha uccisa lui. No, Giulio ha fatto anche la cosa giusta a quel punto. Legale buono. No, nel senso, non potevamo fare altrimenti, diciamo. Se invece avessimo usato i nostri poteri in modo diverso, magari potevamo convincerle a non lasciarci in pace, è tutto lì. Però vabbè. È andata così. Ok, quindi il Dream Team e Shea. Quindi Race, Arcane Trickster, che possono servire. E si vedono il paladino, il furfante e il barbaro che si incamminano verso le porte della città. A un certo punto si girano indietro e tutto in fiamme. Con una botte di vino in spalla. No, tra l'altro, esatto, questo mi dà la possibilità di lasciare solo Atanas, che se vuole creare dei casini per Lady Vattar uccidendo migliaia di persone, io non lo vedo. È molto probabile. E nel caso, ha la potenza di fuoco per farlo. Può anche darsi che fra 10 minuti arrivino delle... Dobbiamo arrestarla per conto di Lord Atanas. Esatto. Beh, tanto meglio. Andiamo. Ok, arrivate alla porta della città e vedete due guardie diverse da quelle che avete incontrato ieri. Sera, Atanas Grad. Ieri notte, ieri. Sì, è difficile che no, no, ieri notte. Quando siete arrivati di giorno. Buongiorno, Vistani. Oh, buongiorno! Cioè, ti avvicina la gente, buongiorno negri! Esatto! Se lui lo è, lo può dire, perché ha il pass. Beh, oh, è pure buongiorno Musi Gialli! Come è pure allievo della Bini anche lui, Ecco. Buongiorno signore! Ci conosciamo? No. Sembrate quelli che abbiamo ucciso l'altra sera. No, volevamo solo salutarvi e augurarvi una buona giornata e soprattutto ringraziarvi per il meraviglioso lavoro che state facendo, offrendovi un po' dei prodotti che portiamo in giro e gli passo. Ma che bravi, ma fossero tutti così i vostri concittadini. Lo so. Livello perculaggine overnight. Io uso sleep per addormentarla. Ti tiro un papagno che finisce fuori dalla staccionata. Non è incantesimo, non posso farlo. E gli allungo la fiasca di vino. Non ci siamo io, Giulio. Quindi ho eliminato quello che dice cose e fa casino, quello che lancia i lupi in giro e quello che uccide distanza. Le persone a caso, sperando che gli altri stiano passivi. Falla, cosa facciamo? Io non ho mi sento in difetto, dobbiamo fare qualcosa. Tu prendi quello a testa. Salla e Sceo dovete prendere i ruoli. No, ma tanto io lo so. Facciamo il confronto. No, ma io lo so che io Salla poi mi giro e ad attaccare. Io lo so che mi girerò a un certo punto, sentirò tipo la cavalcata delle Valchirie. E vedrò tipo tipo un carretto di fuoco, tipo con i lupi, orde di lupi che seguono un gorilla gigante che e sopra sopra uno che oddio abbiamo perso Katta. E sopra Marco che suona tipo in una lingua strana con gli occhi di fuoco che ruotano. Esatto, bravo Giulio, Mad Max. Quando arrivano gli altri la musica è un marello. Dov'è Katta? Uso Silent Image per fare quello che ha detto. Salla, facciamo così, quando arriva il carro con le guardie, ben dire, però non lo controllate mica tanto bene, approfondiamo un po', non siamo superficiali. Ma io rimango lì. Legend muovo un barile. Ok. E faccio in modo che bevano parecchio, e intanto gli chiedo un po', sì. Dico, ma vedo che Kretzke, che Vallachi, sì. Scusate, Vaktargrad, un nome molto più figo, molto più adatto al clima attuale, è molto più prosperosa rispetto a quando era Vallachi. Complimenti, sicuramente anche vostro merito. Boh, se può essere, noi ci pagano, mangiamo, dormiamo, beviamo, facciamo quello che ci pare. Io ricordo i tempi oscuri in cui purtroppo ai Vistani non era permesso di entrare in città, una vergogna. Oh sì, anch'io, ma tanto ci entravamo lo stesso, semplicemente non ci vedevamo. Certo, è vero, voi sapete sempre come fare a essere in un posto dove non volete essere... Piuttosto, voi non mi sembrate del luogo, da dove venite? Siamo dei mercanti, giriamo tra le varie città della Barovia, ma volevo sapere, ho visto una grandissima varietà di... ortofrutticola qua a Kretzk, ma sì, vabbè, a Vaktargrad a Vaktargrad volevo avete nuove colture nei campi qua attorno? Ma non lo so. È botanico. Ma è molto semplice, vedi, a noi arriva carretto con provviste, noi prendiamo provviste e noi mangiamo provviste. Ah, ma da dove arrivano, per sapere? Ne arriva uno di notte da nord. E chi ve lo porta? È sempre pieno. Uno dei fratelli, dei figliocci della Borgomastra. Ah, ho capito, quindi insomma avranno una nuova rotta commerciale, interessante. Oh, sì. L'importante è che arrivi cibo, che arrivi tanto e che finisca nel mio stomaco. Quello è sicuramente importante, un po' come questo vino, gli allungo un'altra fiasca. Oh sì, infatti mi perdoni un secondo e si mette a tracannare. Bravo. Beh, se intanto non arriva, continua a parlarci. Ho perso alcuni di voi. Io ci sono. Sono io che va quando singhiozzo. Non so per quale motivo. E mi chiedo, ma spero che vi tratti bene Lady Vaktar e i suoi figliocci. Oh, benissimo. C'è da divitto, alloggio. Ogni tanto qualche donnina della città si offre. Molto bene, molto bene. Ma Ma è buono. Voi che girate sempre, avete sentito qualcosa di queste sparizioni? Sembra che sparizioni? Qualche nostro. Sembra che per strada ogni tanto qualcuno sparisca e non si veda più. No. In quel momento. Ma qua Vaktargrad, no, perché io invece ho sentito dire che l'ordine qua da quando ci siete voi è fantastico, non ho sentito di sparizione alcuna. Ma quello è quello che dice la propaganda, te non ti devi fidare di quello che... No, ma sicuramente, vabbè, è chiaro, poi le cose magari vengono un po' infiocchettate, però sicuramente voi state facendo un ottimo lavoro, ho visto sia, insomma... sempre per le strade, sì, eccetera. Sicuramente dove c'è noi regna l'ordine e la disciplina. Sì, all'ordine e la disciplina. In quel momento sentite il rumore di zoccoli che si avvicinano. Carica! Pioggia di lupi! Con due teste mozzate così. Non è il vostro carretto, è un uomo a cavallo che avete già visto in passato. È un gigante su un elefante. È il caro Harrigal, che era lo zio della bambina che avete salvato. Ah, è vero. Ecco come si chiamava Harrigal. Non c'avevo segno. Arriva di tutta fretta. E grida ordini alle due guardie e dice: voi due smettete di bere, da adesso in poi è vietato uscire ed entrare dalla città, e se ne va. Noi siamo dentro fuori. Giusto in tempo per uscire, rivederci dopo. Oh sì, per presto, sbrigatevi prima che chiudo i cancelli. Ci chiude fuori, no? Beh, ma aspetto che si sia un po' allontanato. Fa, beh, ma forse non c'è tutta questa fretta in fondo. Finiamo almeno il fiasco adesso che non c'è tutta questa fretta. Faccio un persuasion. Se ci lasciano da solo dentro la città, in quanto tempo brucerà tutto? Faccio un persuasion. Ma fallo fare... A chi? 11. Alla fine, Trickster. Ah, oddio, se hanno qualcosa da proporre, volentieri. Io speravo che arrivasse dopo un po', non che ci mettesse 15.000 anni. Non lo decidiamo mica noi. Race è con te. Io faccio 11 di persuasion, capito, poi se gli altri hanno altre armi, bene. E con armi se non intendo. Fuori la balestra. Va bene, tu sei lì che cerchi di prendere tempo e voi altri del carretto vi state arrivando, siete in portata, diciamo. E mentre stai parlando con te, Vardistran, il tizio si gira verso il carretto che arriva e gli dice: chiuso, non passa più nessuno. Sono solo quelle due guardie. Lockdown, sì, sono solo quelle due guardie. No, io gli dico: perdona amico, perdona, sono con noi, sono con noi, ti prego lasciaci passare, come vedi stavamo uscendo prima di questa chiusura, okay. non c'è motivo, se vuoi eccoti un'altra fiasca, per il dopo almeno, per stasera. Come fa? Cioè sì, dovrei chiudere e poi glu, esatto. Vabbè. Dai, e fuori. Si accascia in un angolino e finisce la bottiglia e si addormenta. Bene, fuori. Lutto la guardia. Non erano due. Sono due, ma l'altra era già partita. E la guardia, come l'altra, la scimitarra e la balestra. Non abbiamo tempo per ste cagate, andiamo. Sono tutti i quadrelli. 20 quadrelli. Sì. Ok, uscite dalla città e vi allontanate e il cancello rimane aperto perché quelli che dovevano chiuderlo non sono più in grado di farlo. Bene, meglio. Cosa fate quindi? Andiamo al villaggio dei... No, aspetta però. Aspetta, fermi. Facciamo una cosa. Voi andate al... Andate al Lido dove devono arrivare i Martinkov. Io magari torno indietro a sto punto ad avvisare Martinkov che stanno chiudendo la città. Ma ti chiudono dentro? Vabbè, però amen, così almeno voi siete fuori. Rega è fatta. Oh, finalmente. Liberi, Oh, liberi dalle questioni morali. Bella idea, dovete semplicemente portare i bambini lì dove devono arrivare i sì, non ti preoccupare, tu vai. Siamo noi. Don't worry. Mentre io corro ad Salva. avvisare Martinkov che stanno chiudendo, e, però se vedo qualcuno che arriva nella mia direzione smetto di correre e vado un po' più tranquillo. Ok, Ok, ma ormai abbiamo visto che è in corso. io ho una domanda. Secondo voi un barile con un bambino dentro galleggia o affonda? Dipende quanta Secondo me galleggia. aria c'è dentro e quanto Se è pesa. chiuso, sigillato, secondo me galleggia. Ma se è Dipende da sigillato il quante bambino merci ci muore. sono dentro. Vabbè, quello non è un Sigillato il problema. bambino muore, No. esatto. Basta che sia sigillato sul fondo e ai lati, ma sopra può anche essere aperto. Basta che No, no, non si ribalti. col se lo bambino che giri. si agita poi entra l'acqua. Quindi no, bisogna proprio sigillare. Basta che ci lasci una cannuccia per... Vai tranquillo. Va bene. Allora, Vez, tu corri, per strada c'è sempre la gente che avete beccato anche ieri, quelli che lavorano e fanno Cerco cose, di non briga. far vedere che sto andando di fretta e vado da Martinko, vado ad avvisarlo. Ok, avvisi Martinkov e dice, cavoli, le mie preoccupazioni, ho paura che si stiano avverando. Vieni via con noi. Potremmo... No, in così poco tempo non riesco a lasciare la mia famiglia, cioè la mia famiglia dovrebbe venire tutta con voi, dovrei... No, non riesco... In questo momento forse In così poco c'è tempo. ancora una porta aperta perché le guardie sono svenute bevendo. Forse se abbiamo fortuna, forse riusciamo a vederla ancora Certo, aperta. abbiamo fortuna, sfortuna abbiamo. Inoltre così facendo sarebbe manifestare, cioè Però potrei... accusarsi manifestamente, come Lo dire. usiamo poco questo fatto che noi in compagnia abbiamo uno che si chiama Sfortuna. Potremmo fare un sacco di giochini quando incontriamo la gente. Sfortuna sia con voi. E mi ha scritto Iac. Dice, cioè, se fuggiamo adesso non potremo più tornare e sarebbe come accusarsi pubblicamente di qualcosa. Riesci a cavartela? Però Pensi di riuscire a cavartela? io spero di sì. Se le cose dovessero peggiorare, allora Dai, ce ne altrimenti andremo. finirà nell'elenco dei martiri. Appunto che se ce ne andiamo non ci sarebbero più possibilità di fare rifornimenti per Puoi Kresk. scegliere o torni da tuo padre o torni da te. È facile. Beh, sì. Righe, chi è la crisalide? È la La madre mamma di dell'ombra. Lambert. Tento, Aci. Tento a rovinare. Ogni tot settimane dobbiamo. Ha condiviso il Sì, nostro ci segue sì. sempre lei. Sì, Ci grande. condivide Salutiamo i sempre. nostri follower. Esatto. Se dovessimo aver bisogno di aiuto, vi manderò un corvo con un messaggio. Sì, tanto noi non lo leggeremo. Grazie. Mi Adesso. raccomando, sii attento. Anche voi, ora fuggite, sciocchi. Ok. Riesco a ripassare? Allora, vediamo, tirami un dado percentuale. Dado Ragazzi, ragazzi, serve percentuale. l'energia di tutti. I miei compagni di Potrebbe essere la svolta della avventura, città. i miei peggiori Prendi la nemici. nostra energia. 95. Wow, 95. È chiuso. È chiuso. Avresti dovuto Secondo me fare un un 95 vuol dire chiuso. Ah, io E al allora. 95% chiuso. C'è uno spiraglino aperto, ma non passa. Riesco a fare così? Sì, riesco a fare così. Ah, vedete già, perfetto. Quando torni c'è un altro vistano, grosso, incazzato e brutto, che anche lui avete già visto prima, ovvero Luvash, il padre della bambina, che è lì che sta menando pesissimo le due guardie che avete ubriacato, ricoprendole di insulti. E e gli dice, appunto, gli prende a male parole, non sapete fare un cazzo, dovete tenere chiuso, volete capire. E, beh, io passo oltre. E lui, no, è chiaro, lui è lì io passo oltre. Davanti al portone. E può fare due cose contemporaneamente. Lui ha chiuso il portone. Ah, adesso è comoda. Sì. E, ti vede arrivare. E ti dice: ehi, tu, dove ti ho visto? Non mi riconosci? Rinfrescami la memoria. E... sono tua figlia, la Vistana. Sono uno degli emissari che tratta con Lady Vactor. Lasciami passare. Emissari? Che stai dicendo? Cioè, lui ha un sacco di cose che potrebbe dire che sono vere e che potrebbero salvare il culo, eh no. Perché cosa da salvarmi il culo? Niente, in realtà. È bellissimo perché c'è il taglio di scena, nel frattempo siamo noi tipo davanti al lago con i barili. Fa. Bene, ora proviamo. Proviamo la teoria. Scommetto che la lancio più lontano io. Quanti rimbalzi riesci a fare con questa bambina? Non ha sentito bene Vardistran, che cosa gli dici? Boh, non ho in mente niente che mi possa salvare il culo in realtà. Nulla, tipo il fatto che hai salvato suo figlio. Ma di solito non vale niente per loro queste cose qua. Si sono ricoperto d'oro. Esatto. Boh. Vabbè, è l'unica cosa che vale. Boh, vabbè, ci provo allora, ma penso che non valga molto. Dice: sì, ci siamo visti tempo fa quando ti abbiamo riportato tua figlia. Sei tu, certo, vecchio mio, come stai? Vieni qua, fatti abbracciare. Ah, ti fai abbracciare? Sì. Iniziativa. Iniziativa, esatto. Dico: ascolta, avrei molta fretta di andare fuori perché devo incamminarmi, il mio tempo qua a Vaktargrad è terminato, per quanto sia piacevole, l'abbiate resa una città molto migliore rispetto al passato. Ma no, amico, dove vuoi andare? Là fuori è pericoloso, stai qui con noi, si sta bene, ci sta. Tornerò presto con nuove ricchezze per tutti voi, se mi lasci passare, ti prego. Provo a fare un persuasion. Solo io ho notato una vena di siciliano in quel si sta bene. 19. Va bene, amico, però mi raccomando, stai attento. Va bene. Voglio rivederti e abbracciarti di nuovo e offrirti tanto vino e tanto cibo alla mia mensa. E intanto il tizio ubriaco fa: lui mi ha dato il vino. Boh, cioè non pensavo che quel loro valesse qualcosa sta cosa qui. Ma è l'unica cosa importante per loro. Cioè, la famiglia. Boh, di solito quando uno fa una cosa positiva qua ti sputano in faccia. No, quelli sono sì. I tuoi compagni. Anche, però tipo la normalità è quella per cui... No. Va bene. Quindi aspetta, puoi fare intanto il parallelo, cioè contemporaneamente sì. A questo noi abbiamo un po' di tempo. Voi, vabbè, un po' di tempo, fammi pensare. Tipo, aprono le botti, uccidono i bambini, sì! Troppo tardi. Sì, no, cioè, facciamo tipo, tiro il bersaglio con le frecce infuocate. Esatto, tipo, fuoco, sì, Strad! Tipo, scrivono Strad con i bambini morti, con i pezzi di bambini morti. Avete al massimo 10 minuti. Nel frattempo arrivate. È tornato Yak. Sì, che cazzo è? Oh, grande Yak. Andiamo a prendere cerca Crash. Di rassicurate Andrea Giacomo Vecchi. Non so cosa voglia dire. Giulio, Atanas, andiamo a prendere Crash. Sì. 10 minuti. Abbiamo 10 minuti di vantaggio se non ci fermiamo. Esatto. Giusto, buttiamo via i bambini, corriamo. Lasciamo il carretto qua e andiamo a Crest. Allora, sarebbe divertente. Arriva a Crest. Tu chi sei? Allora, nel frattempo arrivate al ponte sul fiume. Nel frattempo arrivate al ponte su un fiume. Qualcuno mi tira un D20. Io. Qualcuno a caso? Chi vuole? Certo io. 18 di dado. Per cosa? Nelle cose sì. Casuali è sempre brutto fare altro. Tirano di 12. è un D8. Un D8? E un D12. Insieme. D8 e D12 insieme fanno 5-4-9. Che botta di culo. Comunque vedete che il Demiurgo e il Master ormai è una cosa sola. Ormai lo conosco come funziona sta cosa. È molto semplice. 9. Trovi una scaglia di pelle. Trovi un barile con un bambino. Tira un di 100. Tra l'altro, dopo aver chiesto se galleggiano, Katta ci fa fare proprio su un ponte, su un fiume. Cioè, insomma, voglio dire. Sono i segnali. Da lì ci dovete passare. Però, 100, però forse il carro tutto insieme galleggia, fa un po' da zattera. 40. Tondo. 40. 40, 40, 40. Ah, 40, 40, 40, 40 lupi. Quanto manca la luna piena, Katta? Non lo sapete. Guarda che vuol diventare. Perfetto. No, io non vorrei diventarlo. Anche detto mi hanno morso, ma nessuno ha cagato la cosa, quindi probabilmente diventerò lupinaro a un certo punto. Io non credo di sapere come funziona. Ma tanto c'è la nebbia, non vedrai mai. I lupi mannari non esistono. È che non, è che non possiamo fare molto, mi sa. Beh, i lupi mannari si trasformano, quindi prima o poi la luna piena arriverà. Vabbè, chiedi al chierico se ti rimuove la maledizione. Io sono a livello troppo basso per far qualcosa, purtroppo. Arci, trovi ad un ramo di un albero sulla strada appesa una gabbietta per uccellini. Ci metto Frank. Dentro ci sono due piccoli uccelli e ci volano dentro e niente. Beh, e la prendo e faccio il rituale druido e ci parlo. E che cosa gli dici? Ciao piccoli uccellini, cosa ci fate nella gabbietta sull'albero? Stiamo qui. Purtroppo mi sta già succando. Come ogni druido farebbe, gli schiaccio, gli uccido, gli brucio, gli do fuoco. Libero Frank e come facevo con i topi e con i piranha, tento la convivenza. Ok. No, vabbè, dov'è il vostro padrone? Non abbiamo un padrone. Chi è il proprietario della gabbia? È vero che sono stupidi come gli uccelli. Noi, è la nostra gabbia. Poverini, sono ritardati. Avete ragione, colpa mia. Apro la gabbia, dico, siete liberi, stupidi idioti. Rimangono dentro. Dicono: no, noi non vogliamo uscire. Ah, beh, vuoi vedere? Faccio così, rimangono dentro. Il druido è venuto vivo, liberi. No, vabbè, dai, li prendo fuori con la mano e li lancio. Cioè, li libero. Li lancio. Cercano di ritornarci. Controllo la gabbietta per vedere se ha tipo delle tasche segrete o dei doppi fondi, cose così. La gabbietta è di normale metallo, aspetta. Sì. Me la inculo. Speravo. Vabbè, fosse tipo me li porto dietro, dai, se vedo che sono così affacciati la gabbietta me li porto dietro. Sì. Loro stanno dentro la gabbietta e rimangono lì e basta. Posso fare una conoscenza arcana per capire tipo se mi sembra magica la gabbietta, cosa strana è? Sì. E la faccio analizzare anche a Sfortuna, al Bosi 1. Allora, 4 di dado. Mi sembra una normalissima gabbietta. Bene. Anche Sfortuna dice così? Faccio il rituale di Detect Magic, cosa vedi? Sì. È una gabbietta. Non c'è magia nella gabbietta. Le butto in mare. Riga, è uno di quegli oggetti a caso che ogni tanto trovi. Tipo, sì, una volta ho trovato dei vestiti. Yak sta commentando. Katta ti diceva di andare in un posto. Piccoli uccelli. Una gabbietta sull'albero. Guarda se galleggiano. Adesso lo faremo. Il viaggio prosegue tranquillamente, a parte questo ritrovamento. E, vabbè, che invece ci ha scombussolato. Incrociate il carretto che avete mandato ieri con l'altro garzone. che vi saluta ed ha detto che bella. Ha fatto la consegna. Ah, che sta tornando. Ah, sì, pensavo se stia ancora andando in là, dicevo. Dicevo, cazzo. Te sei presa comoda, O avete dei razzi sul carretto voi. Esatto. E dove cazzo è la mappa? Qua. Ok, vi dice, aspettate un secondo qui, si guarda intorno, si tramuta in un corvo mannaro e si innalza tra le nubi. Quello uccide i bambini! E poi spara i bambini. Non li avranno vivi! La crisaglia commenta, è normale che parlino, ma non sei riferito a noi. O agli uccelli. È un lecitissimo dubbio. Arrivano dalle nubi altri suoi simili e una volta atterrati riprendono sembianze umane. Riconoscete l'ultimo figlio di Martinkov, ancora, come si dice, né morto né scomparso, e gli altri suoi parenti. E cominciano a prendersi, a caricarsi un bambino a testa e fanno... Dobbiamo censurarti, Sceo, per cattiva pubblicità. E fanno la... Per cosa? Cosa? E fanno la staffetta avanti e indietro portando in volo i bambini a Crest. Ah, sono quelle finte di Lupo Alberto. Mm-hmm. Bravi. Di Lupo Alberto. Dai, da piccolo non le hai mai avute quelle chewing gum di Lupo Alberto, dei pochi. Mi raccomando, non dite nulla sul voto che ho chiuso. Cosa? Non dite nulla? Sul fatto che ha chiuso. Ah, beh, loro non lo sanno. No. Adesso vedete un tizio in lontananza arrivare correndo. No, lo sanno benissimo. C'erano anche loro, c'erano benissimo Race e coso. Poi, vabbè, non lo diranno perché è il classico, però in realtà lo sanno. Sì, è vero. Ah, raga, io devo staccare. Ciao. Ciao. No, beh, nel senso, c'è una... questi uccellini di merda esplodono da un momento all'altro. Se non li fai esplodere, no? Faccio esplodere. Esplodono. Ha fatto esplodere gli uccelli? No. Sfortuna, ha detto gli faccio esplodere. Quale Avengers devi guardare oggi? No, quale oggi Avengers? Niente. Oggi niente. Oggi siamo in flex. Valorante. Posso chiedere al druido di scrivere il mio libro degli antichi? Io sono allenato al cazzeggio da Dio, posso andare in quarantena fino ai 40 anni. Perché... Hai detto che volevi iniziare. Ciao. Ciao rega. Ciao. Ciao. Rega. Cosa volevi dire, Marco? Posso chiedere al druido di scrivere nel mio libro degli antichi segreti la magia di parlare con gli animali? È appena andato via il druido. Purtroppo il druido è andato via. Purtroppo glielo puoi chiedere la prossima volta. Beh, sì, lo puoi scrivere su WhatsApp. Arci, posso fare sta roba? Dovrei per prima vedermi. Risponde chi di Akata. Esatto. Dovrei prima vedermi come funziona scrivere un incantesimo, no, sul libro. Arci gli avrebbe detto non no. Non ricordo direttamente. Vabbè, glielo chiede. Ok, siete praticamente al bivio. Voglio nascondo il carretto con Silent Image. Perché? Perché c'è una persona che ci sta correndo incontro. Sì, quella persona vi è. Notate che... Vabbè, ma scusa, Milivoji ci ha riconosciuto a 2000 metri, ci ha visto due volte, noi lo riconosceremo. Anzi, questa plaga. Anche i bambini nel carretto. Questa persona è abbastanza familiare. E mi porterò presto dall'inizio. Presto, attaccamolo! Esatto. Raggiungi i tuoi alleati, se così si può. Spesso abusiamo della parola alleati. Beh, sarebbe stato bello però nasconderci. Quindi il carretto non lo vedo più. Sì, sarebbe stato molto divertente. Scusami, so. Ma quanto dura eventualmente l'illusione? Dipende da che cosa l'ha fatto. Credo dura no. 10 minuti, ma posso rifare la volontà. Quindi... E quindi cosa vedo io quando perfetto, arrivo? Perfetto, lo facciamo andare fino a Kresk di corsa cercandoci. I carretti sono due, però, quello vuoto che arrivava. Qui lo dico e qui lo nego. Se fosse al posto di Vezza a correrci incontro, fosse stato perfetto, io, non l'avremmo fatto. È perfetto, nascondi grazie, il nostro carretto, gli fai trovare solo il carretto vuoto, così lui pensa che lo giriamo, così lui pensa che sia il no, carretto. No, non sono caotico, non lo faccio. Va bene. Ma cosa sei, neutrale malvagio? Quindi cosa vedo io esattamente? Vedi no, no, questo non faccia niente. Noi che stiamo dando i bambini dei corvi. Esatto, e che man mano li portano in volo verso ovest. Che però scoprirai non essere i Martinko, sono corvi qualunque, che si rubano i bambini. No, è che stiamo facendo tiro al piattello. Abbiamo vedo i corvi, ho la balestra in mano. Vi dico, dite a Martinko che Vaktargrad è stata chiusa. Hanno chiuso tutte le uscite. Decimo livello. Si è frizzato cazzo. Catta, non dire niente se vuoi che saliamo di livello. Aspetta. Grande, grande. Catta, stai grande, fermo grande, se abbiamo grande. Vinto. Abbiamo vinto, raga, basta. Bene, raga, ne approfitto anch'io per andarmene, visto che domani è feriale. Ah, giusto, tu lavori. Per tutti. Ah, adesso, se riappare Catta, mi sa che chiudiamo. Vabbè, penso che anche lui domani lavori. Non lo so. Cioè, in realtà io sono in ferie, ma penso che il mio capo sia scordato. Quindi... Ah, ok. Questi rumori vengono da qua. Ciao, Catta. Eccolo. Adesso sì, quindi... Ok, dovrei essere tornato. Okay. Sì. Allora, sì. Io nel nuovo livello Catta ho preso... Sì, no, grazie Catta per averci fatto salire di 3 livelli. Prego. 7 a 2, quindi... Ti guardi la registrazione della diretta, noi ti abbiamo, anzi Salti ha palesemente detto non dire niente se... non ha funzionato, dai, forse la prossima. Vabbè, volta diamo i bambini ai corvi, quindi poi okay. Torniamo. No, io però gli avviso anche gli dico di dire esatto. A Martinko che è chiusa Vaktargrad e che suo figlio sta bene, figli anche questo. Per ora. Beh, glielo puoi dire anche tu. Sì, gli aggiungo e che suo figlio sta bene. Per ora. Per ora. Per ok. Certo, la risposta più ovvia sarebbe quale, però dipende, l'ultimo. Almeno uno dei suoi figli sta bene. Questa è una pessima notizia, non ci voleva. Dovevamo tenere aperta il più possibile la via dei viveri. Speriamo la situazione migliori, ma non ci possiamo fare molto adesso. Quello che è importante è che voi continuate il vostro viaggio e arrivate a destinazione il prima possibile. Ma il garzone che va, cosa fa? Lui dice io attenderò il favore delle tenebre e entrerò nella mia forma animale di notte in modo da non essere visto. Ottimo. Quindi abbiamo due carretti adesso. Esatto. Recupero l'altro quelli... io. Quindi in realtà mi hanno visto arrivare. Mi hanno visto arrivare addosso di Alce. Tu sei arrivato addosso dell'Alce anche Kevin 2. Era insieme all'Alce, quindi è venuto anche lui con voi. Sì, ma deve ancora arrivare, è un po' più lento dell'Alce, mi sa. Sì, è più lento, è lì che corre dietro con il fiatone. Presto, andiamo! Abbiamo fatto esercizio, eh? Non potresti esatto. Portarmi sopra, non c'è tempo per questo! Esatto. Va bene, lui è lì col fiatone e vi chiede se può prestare ancora i suoi servigi a voi in qualche modo. Certo. Proteggi il carretto verso Kresk. Lo lasciamo a lui? Noi ora dove andiamo? Sì. In teoria Kresk a portare i bambini dovremmo andare. No, i bambini stanno portando i Martinko. Stanno volando. Ah no, i bambini, scusami, no, è vero, li hanno presi loro. Noi proseguiremo un tratto con loro, ma poi ci devieremo... E poi andiamo verso sud. Verso la... Io farei la strega che forse ha l'altro Martinko. Sì. Voi siete fai conto qua? Qui c'è il castello e qui c'è la strega. Castello tanto è l'alba, no? Cosa? Cosa hai detto? Chi? Vez. Castello di Kresk. No. Che castello? Il castello castello. No, il castello dell'Ordine del Drago. D'argento. Ah, scusa, dell'Ordine del Drago. Okay. Cioè, dobbiamo passare dal castello per arrivare alla strega? Ci sono due strade. Voi siete fai conto qua. C'è questa strada che fa così, che è un taglio un po' strano, però probabilmente c'è un modo per tagliare questa strada. Per andare la vecchia strada per andare a Beretz. Aspetta, scusa, era questa un attimo, qua. Un attimo solo. Vaktargard qual è di queste? N. Vallachi. N. Ok. Quindi noi stiamo andando verso Kresk, che è la R. R è un bivio, Kresk è la S. D'accordo. Le streghe dove erano? Il mulino? No. No. Dall'altra parte. Troppo lontano, no, via. In teoria noi adesso vorremmo andare alla U, giusto? Ho capito bene. O alla Q o alla U. La U è la strega? No. Esatto. Sì. Potremmo andare lì. Sì. Dalla Q dobbiamo passarci. C'è questa vecchia via, volendo si arriva anche seguendo il fiume. Ma da Q a U c'è un dislivello enorme. In teoria sì. Quindi è più veloce da sotto. Sì. Sì, no, infatti dobbiamo andare da U. Cioè dobbiamo andare da P verso U. In teoria, magari magari. Io andrei lì, però ditemi voi se c'è un motivo diverso per andare prima dall'ordine così. Secondo me no. Secondo me la cosa migliore è andare da sta strega e vedere se è ancora Martinkov. E andare dai paladini, però non è male avere. Però se c'è ancora Martinkov vivo, dai paladini. Sì, esatto. Il paladino sì, è vita da centinaia di anni. Martinkov. Sì, è vero, hai ragione. Sì, andiamo giù. Vai. Va bene. Così so cosa prepararmi la prossima volta. Esatto. Molto bene. Cambieremo idea a inizio sessione. Maledetti. Torneremo indietro e bruceremo Vallachi. Ah, Katta, non hai capito, andiamo al mulino. Beh, quello ci siete già stati, per me non è un problema. Va bene, quindi la chiudiamo qua. Quindi la compagnia si incammina alle volte delle rovine di Beretz. Di sicuro questa strada non è fatta per essere percorsa da un carretto. No, ma il carretto qui al villaggio. Il carretto va con l'altro. Ah no, ma il carretto ce l'ha uno dei cosi, Martin Coverno, non lo so, ci farà quello che ritiene. Ah, lo lascia qui, non può entrare in città. Vabbè. Cioè, uno torna indietro e uno va verso Kresk. Esatto. Ma andiamo tutti e due i carretti a Kresk. Uno lo riporta a Vallachi e lo imboscherà da qualche parte. Va bene, faccia quello che vuole. L'elfo invece lo mandiamo come lo mandiamo a Kresk a fare come si dice, guardia del corpo. Ok, bene. Quindi questa era la 45esima puntata della maledizione. Esatto. Comunque, se non ammazzo io delle persone, se sessioni non muore mai nessuno. Sì, è vero. Hai avuto 10 minuti. Dai. Direi fatti le domande, però. Però potevi lasciare la porta chiusa. Cioè, se hai un martello, tutto ciò che vedi sono chiodi. Esatto. Cioè, io ero già preparato a rimanere a Vaktargrad e fare lì la rivoluzione. Dopo la cosa bella era il resto della Mentre esatto, voi andavate in giro a portare avanti la bandiera di Strad. Anche dopo, tipo, in una compagnia normale c'era la missione in cui i compagni sparare l'amico rimasto. No, ma in questa voi andavate a Kresk le fiamme, ovviamente. Tipo, sì, qualcosa del genere. Non tipo, entravamo a Kresk tutta la notte, così, a fare festini. Libertà! Sì! Non c'è più la guida morale! Beh, in effetti non abbiamo mai pensato di tornare indietro ad aprire il portone. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Bene, Sandino. Ragazzi. Ciao Salla. Ciao Lidio. Ciao. Bene, come diceva giustamente il nostro master, avete visto il 45esimo episodio. Li avete anche ascoltato, forse, quando sarà il momento della maledizione di Katta. Tra l'altro, la maledizione di Katta è andato molto avanti nel blog, ma Catta ha un po' poltrito questo weekend lungo. Cioè, mi ero messo avanti sperando di... Arriva in pari, ci sei quasi, ultimo sforzo. Cioè, non è la destinazione, è il viaggio. Quello. No. Arriva in pari, dai, fai il bravo, fai gli ultimi, sì. Così ci siamo. Dopo possiamo andare... Perché lo dice sempre in diretta? Senti. Per responsabilizzarlo, perché così so che i nostri... So che i nostri ascoltatori, so che i nostri seguaci che oggi sono stati potenti, sicuramente apprezzeranno. Vabbè, del resto è l'amministratore delegato, Vez, non è che... Catta? No, Vez. Vez è l'amministratore delegato. Sì. E... il fondatore presidente sarebbe... Non l'ho sentito, quindi immagino che sia stato censurato. Non è che ho censurato, visto che il fondatore / presidente è Salla, in teoria. Ma in realtà no, di Tycoons and Dragons. Il logo è suo, però in realtà no. Lui magari di RGDR, sì, co-fondatore. Però di Tycoons non proprio. Ma non è una questione di merito, assolutamente, siamo tutti noi. Vabbè, dai, Elas, ok. Non esiste Tycoons and Dragons senza tutti noi. Detto questo, vi diamo appuntamento. Siamo tutti nel consiglio d'amministrazione. Siete tutti ugualmente importanti, a parte Shio che non fa un cazzo. E... triste, ma vero. No, vabbè. Vogliamo bene anche a Sheo, ovviamente. Vogliamo bene a Sheo, vogliamo bene a Sala che ha salutato, vogliamo bene ad Arci che mi fate giocare con voi. Che è andato a vedere Pornhub qualcosa, Avengers su Pornhub. E... ma magari è andato a giocare a loro. Beh, cioè... ma secondo me lui guarda gli Avengers su Pornhub, cosa probabile. Va bene. Comunque non abbiate paura nel continuare a seguirci anche per le prossime puntate, soprattutto questo weekend penso che continueremo con il nostro ormai solito appuntamento di Umbra Imperi, vero Giulio? Va bene, sì sì. Se volete. Brutale la scorsa volta. Detto questo, magari ricordiamoci di informare anche gli altri, perché di solito Salla va via sempre tipo un'ora prima, in questo caso sono pochi minuti, però non lo sa. Detto questo, grazie a tutti per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime sessioni con Tycoons and Dragons e RIP GDR. E continuate a seguirci sui nostri canali social, sul podcast, eccetera, eccetera. E mi raccomando, continuate a tenervi forte in questa quarantena. Indicate col dito la telecamera, non so perché. E niente, non saprei, non riesco neanche a farlo, ma... questo è quello che vede il sale nel vasetto quando lo prende. Va bene, va bene, va bene. Ciao a tutti e ai prossimi episodi, alle prossime sessioni. Ciao ragazzi, ciao anche agli amici del podcast. Ciao. Vediamo se avrà funzionato questa diretta alla registrazione. Bravi, bravi, bravi.